Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, non se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. I'm a real wild one. Wild one. School, I don't feel real cool. Gotta dance like a fool. Got the message that I gotta be a wild one. Vittorione Sgarbi, non mollare. Il popolo della zanzara è con te. Gonna break it loose, gonna keep on moving wild. Gonna keep on swinging, baby, I'm gonna be a wild child. Ragazzi, cosa è successo ieri sera, ieri notte? Abbiamo rischiato seriamente, ve lo dico subito, caro Parenzo, abbiamo rischiato seriamente di perdere Vittorione Sgarbi. La vita è così, la vita. Beh, un corno, la vita è così, un corno. Beh, la vita è così. Oh, lo so, purtroppo, io anch'io ho paura della morte in modo terribile, però per fortuna è vivo il professore. Sta bene, forse riusciremo anche a parlargli. Stiamo cercando di approntare un collegamento difficile perché ovviamente sta al telefono praticamente tutto il giorno anche dal letto dell'ospedale. La cosa incredibile è che i medici sono un po' anche rotti i coglioni, no? Delle telefonate che riceve l'ospedale. Cioè, anche perché è il reparto di terapia intensiva, voglio dire, in un paese normale, no? Normalmente quando uno. Comunque, era scatenato fino a qualche giorno fa, era scatenato in televisione. Aveva detto, per esempio, che metà dei parlamentari che io pago non valgono un cazzo. Senti Sgarbone. Questo scatenato. Quando accadeva? Non mi ricordo, due giorni fa. Martedì credo a Ballarò. Metà dei parlamentari che io pago non valgono un cazzo, non fanno niente, sono ignoranti come le capre e fanno leggi inutili. Non voglio pagare, non li voglio pagare. Rinuncio anche alla mia liquidazione, come si chiama. Poi dice che non si possono pagare le tasse per dare lo stipendio a Verdini, Alfano. Però sentivi già la voce forse un po' affaticata. Ma che cazzo c'entra la voce affaticata? No, dai, ma tu. Senti, davvero. Sì, no, ho sentito la voce. Sentivo fine, un po' la rauca, voce un po' strascicata, un po' rafficcata. Do una parte di quello che guadagno perché a Firenze, per dire l'esempio, qualche demente costruisca il Palazzo di Giustizia, costato 250 milioni di euro miei. Già che ci sono, do anche lo stipendio a Verdini, poi lo do anche ad Alfano, cioè pago con i soldi miei, perché sono scemo, se io devo dare i soldi a gente che fa l'opposto di quello che io voglio. Distrugge l'Italia con le paleoliche, ovunque. Il bello è che Giannini si sorprendeva di queste cose che Sgarbi dice da due anni, no? Essendosi lui sempre occupato di massimi sistemi, no? Di grandi questioni dell'economia italiana, rideva come un pazzo. Vittorione queste cose qui le dice puntualmente ogni ora del giorno, ogni ora del giorno. Oh, che bello che i grandi talk riscoprano il professore. Il professore, certo, sì, certo. Sì, detto sì, questo, riscoperto da. Io non voglio dire niente, Vito. Riscoperto da Ballarò, tac, tac, tac, il colpo al cuore. Ah, cioè, tu dici, non sono bastate le radio belve, le nostre zanzare, cioè, anzi, quello l'hanno tenuto sempre in vita. È andato a Ballarò. Va una volta sulla terza rete, tac. No, non è così, no. È che intanto è successo. Allora, cosa è successo? Andava di notte, sì. Vittorione e con la macchina. Ecco, ricostruisci per bene tutta la vicenda. No, ma non sentiamo c'è niente i da ricostruire. L'autista. Come al solito, tutto. Che è successo? Quello si mette a frequentare di notte le chiese. Di notte le chiese. Fa una vita così, fa una vita pazzesca. Cioè, va di notte in chiesa. Con tutto il codazzo di gente. Sì, che si fa aprire le chiese alle 2 alle 3 di notte. Alle 2 aprite alle 3 qui notte. C'è il Mantegna, aprite il Caravaggio, cretino, l'abside, apri il Caravaggio, guarda il Caravaggio, coglione! E ora andiamo a Modena, poi va a Modena, arriva tutto no, adesso torniamo a Mantova. Palazzo a te, Giulio Romano. Chiama i sovrintendenti alle 4 di mattina, alle 5 di mattina. E Pasolini! Vabbè, comunque, a un certo punto Vittorio sente dei dolori, ha l'intuizione magica di fermarsi a Modena, e qui gli dicono che se non si fosse fermato, ischemia, operazioni, forse sarà operato un'altra volta. Vittorione. La situazione di questa notte è ben diversa. Io ho provato un dolore abbastanza forte e ho pensato che passasse. Dopo mezz'ora ho valutato l'anomalia e ho detto al mio autista di uscire a Modena, dove c'è peraltro un policlinico dove sono in questo momento, con dei medici specializzati sulle cure del cuore. E arrivato al pronto soccorso, poi mi hanno rapidamente fatto questa operazione per l'ischemia che avevo, quindi ho avuto l'intuizione giusta di fermarmi. Però gli ero detto, se lei non si fosse fermato, entro mezz'ora sarebbe morto. Quindi ero vicino alla morte e non ho avuto la consapevolezza, perché sarebbe interrotto il flusso di sangue della coronaria e io, non fermandomi, sarei morto. Tanto più che siamo arrivati anche dei battiti molto bassi del cuore mentre mi operavano. Quindi questa è stata l'unica cosa. Questa è la Zanzara, siamo contenti che Vittorione Sgarbi sia vivo. 800 24 00 24, più tardi collegamento molto complicato con l'ospedale, un casino, i cavi, il telefono, i medici che si oppongono, ma noi ce ne fottiamo naturalmente. Guarda che la cosa che dicevo ieri sui funerali di Licio Gelli, David, sì, è vera. Giustamente la signora Welby, Mina Welby, nessuno se lo ricorda questo caso, il caso Welby, certo, no? Che è vero, ma sì, scherzi. No, ma è vero, cioè, hai ragione. È massone scomunicato, signor Gelli. Adesso per me il funerale deve essere fatto per tutti, eh? Cioè la Chiesa Cattolica deve essere considerata una sorta di Luna Park, dove tu vai, prendi un biglietto, paghi per fare il funerale e lo fai, non ti deve interessare chi è, chi non è, che fa il funerale. Però se tu neghi il funerale a un tizio che era d'accordo con l'eutanasia, ha fatto delle battaglie a favore della dolce morte, eccetera, eccetera, poi credo cattolico anche il signor Welby, se non sbaglio. Invece concedi il funerale non solo ai Casamonica, lo sappiamo, ma anche un signore come Licio Gelli, che per carità va benissimo, però scomunicato, massone, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaro? Vergognatevi. Il sindaco di Arezzo. No, libertà, diritti, giustizia, aborto e divorzio con Emma Bonino. Abbiamo detto a Welby sì alla vita. Voi ma avete detto alla morte con Licio Gelli, che fu P2, che noi difendemmo, perché c'era il diritto a essere P2. Vabbè. Il diritto a essere P2, ma non il diritto della Chiesa clericare e clerichista e fascista post-comunista. Silenziate un attimo Pannella, dai. Il sindaco di Arezzo dice che Gelli è stato un cittadino illustre. Sindaco di Arezzo Ghinelli. Beh, da un certo punto di vista, Ghinelli. Ma che cazzo ne so. Beh, da un certo punto di vista è vero, Ma cioè, illustre. Beh, sì, cioè, per anche Arezzo, la cittadina che ha dato i natali a Mussolini o a Hitler. Vabbè, adesso stai paragonando Gelli a Mussolini. Beh, e Hitler, a Mussolini, dai. Sì, visto che. No, a Mussolini sicuro, visto che lui si è fatto cosa. Seppellire. Esatto, con... altra cosa. Il feretro in chiesa è stato portato. Credo avesse sopra una specie di drappo fascista, eh? Sì, cioè, lui l'aveva chiesto. Per cui alla Chiesa queste cose non fottono un cazzo, capito? Welby no, cioè quelli che quest'altro sì, capito? Ma dai, su, a me mi fa incazzare la Chiesa Cattolica, guarda, l'ipocrisia, le contraddizioni continue sono qualcosa che mi fa venire il sangue al cervello. Ghinelli è stato un personaggio nel senso vero della parola e quindi ha significato anche la conoscenza e la frequentazione in città di personaggi che senza di lui probabilmente non sarebbero mai arrivati a percorrere le nostre strade, e quindi lo considero un cittadino illustre. Io se non sento qualche vegano ogni giorno non ce la faccio, non resisto, Parenzo. No, basta con questi vegani. No, però se non sento qualche vegano, a parte ne vogliamo parlare del grande inciucio dei 5 Stelle? del grandissimo inciucio dei 5 Stelle? Cioè, i quali prima fanno fuoco e fiamme contro il PD, eccetera, eccetera, dopodiché cosa fanno? L'accordo con... Io ho sentito un sacco di militanti dei 5 Stelle imbufaliti per questa cosa. Fanno l'accordo col PD per eleggere i giudici della Corte Costituzionale. Però in realtà è la prima volta che fanno politica i 5 Stelle. Ma io non lo so se hanno fatto bene o hanno fatto male. Comunque sono in contraddizione con tutto quello che dicevano prima. Cioè, perché per te qualunque accordo è sinonimo di immondizia? No, no, ma in generale, a me non me ne frega niente di... Il fatto stesso che ci sia un accordo per te è sbagliato. No, ma per me non c'entra niente. Lascia perdere quello che penso io. Dico semplicemente che quelli dei 5 Stelle hanno sempre tuonato contro il Partito Democratico e invece si sono trovati a fare una specie di inciucio con Renzi. No, qui si trattava di eleggere una persona che fosse di garanzia. Uguale, ma non è uguale. Se però, ti leggo quello che scriveva il blog di Grillo, dunque sostanzialmente lo possiamo attribuire a Grillo, su Augusto Barbera, uno dei giudici eletti, ti assicuro che non ci andava giù leggero, però ti faccio sentire un vegano. Questo qua si chiama Luca De Bei, di un'associazione, ma non ha nemmeno il caso di citarla, comunque Anima Animale si chiama, Anima Animale, amico mio. Se uno può ancora essere libera di mangiare la carne, forse, però non può essere libera di schiavizzare, di rinchiudere, di torturare. Una persona può essere libera eventualmente di prendere arco e frecce e di andare a cacciare come si faceva una volta, ma non può, e questo dovrebbe essere illegale, la schiavitù. No, ma hai capito? Non si può schiavizzare un animale. Se li vuoi devi usare l'arco e la freccia. Mamma mia. L'arco e la freccia. È gente simpatica. Cioè, però, chi mangia gli animali li schiavizza ed è come il Ku Klux Klan. Ha detto questo, ti faccio sentire. Una volta un membro del Ku Klux Klan non poteva dire io ritengo che le persone di colore siano da schiavizzare, adesso si può dire gli animali sono da schiavizzare, e questa è la differenza. Traffico, il traffico. La Zanzara. Solitamente è molto maleducato, è molto volgare e ignorante. Allora, Giorgio, Reggio Emilia, apriamo le danze. 800 24 00 24. Giorgio, vai. Ciao Luciani, ciao. Dimmi. David, ascolta, no, volevo parlare su questo caracapra che è andato all'ospedale a farsi curare, che non vuole pagare le tasse. Le tasse non le pago, vado all'ospedale. Poi non è andato in una clinica privata, questo qua. No, clinica pubblica, no, pubblico, ospedale pubblico. Ospedale pubblico, le tasse le paghiamo anche noi. Cioè, tu dici. Mandalo in Argentina ai vegani, che mandiamo 7 giorni su 7 carne, vedrai che là lo curiamo tutti i vegani. No, però Giorgio, che è evidentemente argentino, ha fatto un'osservazione. Adesso, per carità, quello si è sentito male, stava quasi morendo. Male. Però chi se ne frega, uno può tranquillamente discutere, attaccare. Siamo qui per questo. Tu stai dicendo, lui protesta fino a 2 giorni prima, protestava per il fatto che non paga, non vuole pagare le tasse. E però poi con le nostre tasse si pagano gli ospedali pubblici. E lui si infila in un ospedale pubblico perché sta per crepare, bravo, giusto? Quello lì proprio. Ma non ci sta in realtà, perché minaccia di non pagare. La critica, io lo capisco, Giorgio, che dice così. Cioè, non è che non lo capisco. Uno può criticare il sistema, le tasse. Lì, per quello è andato. Dile a Davide, il Tuchel l'ha fatto male quello lì. Il Tuchel l'ha fatto male. Come il tu? Il Tuchel, dile a Davide che vuol dire il Tuchel. Il Tuchel, che cazzo vuol non dire lo so il Tuchel? Cos'è il Tuchel? E dillo, che cos'è? È la lingua sua, che vuol dire? Ma che ne so? Non lo l'Argentina è il culo, vuol dire. Cioè? Ma in quale lingua? Mica conosco l'argentino. Ma chi gli ha fatto male a chi? Scusa, spiegami. A come si chiama questo qua? Vabbè, Giorgio, ciao. Lucia non da Modena, non ho capito. Bere così tanto, Lucia, Modena, vai. Pronto? Dimmi. Sì, buonasera, Cruciani. Allora, io sono una vegana. Sì. Sinceramente, mi piacerebbe, visto che lei è una persona molto intelligente, che... ti portassero esempi di vegani un po' meno macchietta, perché quelli che fate sentire voi fanno ridere anche me, sinceramente. E meno male. Allora, il discorso del vegano, che non è una persona completamente destrutturata dalla realtà, quindi non parliamo di quelli che vivono nei boschi, raccolgono l'acqua piovana, non toccano niente che non sia caduto da terra, hanno soltanto una scala di valori diversa da chi mangia carne, che io rispetto, perché ognuno può mangiare chi vuole, no? fin qua, però quando però io sento una persona intelligente che dice mangio il coniglio piuttosto che è una provocazione che lascia il tempo che trova. No, ma non ho capito qual è il problema. Io non ho capito ancora che cosa vuoi dire, Lucia. Francamente, non ho capito. Voglio dire che ci sono dei valori come la compassione, come il rispetto, che spesso nei suoi discorsi contro i vegani. Scusami, ma io non ho capito. Ma io che cazzo ci faccio dei valori come compassione e rispetto in una discussione come questa? Cosa c'entra? Infatti. Ma cosa c'entra la compassione e rispetto? Non c'entra una mazza. Sono parole vuote. Ma io non ho. Ma io la compassione la provo per gli esseri umani e per tutti. In generale, quando è il caso di provarla, non è che la provo così in automatico. Ma che vuol dire? Amica mia, se tu pensi che gli animali siano uguali a noi, mi dispiace. Non penso che siano uguali a noi. Lo so di fare che gli animali sono uguali a noi. Dico che il rispetto per gli esseri viventi deve La mancanza di rispetto? Spiegami. Cioè, dov'è la mia mancanza di rispetto? Spiegami. Quando si dice che gli animali non hanno un'anima, gli animali non hanno un'anima, va benissimo, hanno un'anima. Gli animali sono diversi dagli uomini, questo diciamo. Certo, ma questo sono diversi. Ma non è una legge scritta il fatto che l'uomo possa farne e disporne come vuole. Poi io lo posso rispettare. Senti, amica mia, Lucia, il punto è molto semplice. Io voglio continuare a mangiare a modo mio anche la carne e non voglio che nessuna associazione mi rompa i coglioni e mi consideri un criminale per questo, chiaro? Perfetto. È molto semplice. Tutto il resto, tutto considerata una pazza perché ma tu una pazza? Ma chi ti considera una pazza? Cioè, se tu pensi che io sono uguale a una capra, se tu pensi che io sono uguale a una capra, a un animale qualsiasi, va benissimo. Però ci vuole dell'onestà intellettuale nel dire che uno che decide di mangiare animali mangia un essere vivente. Cioè, questo è un dato. Ma un essere vivente, ma che vuol dire? Ma non vuol dire niente. Ma chi se ne frega? Quando io mangio un coniglio, non è che penso al coniglio vivo. Non ci penso. Se ci pensi tu, non lo mangiare. Se mi consideri un assassino, fai una legge che mette in galera quelli che mangiano i conigli. Vediamo che consenso trova. Questa cosa del coniglio ti ha dato fastidio che la lava. Vabbè, dai, Lucia, ho capito benissimo. No, tu non sei estremista, sono contento di questa cosa qua, che non sei estremista, però insomma ti avvicini un po' all'estremismo, cioè gli esseri umani, bisogna quando mangi devi avere rispetto. Io quando mangio, che rispetto devo avere? Roberto da Rimini, cioè adesso faccio una bella grigliata, devo avere rispetto, devo pensare al rispetto, una bella grigliata come in Argentina, no? Una bella grigliata di salsicce, no? Carne rossa, cioè devo pensare al rispetto. Ma che rispetto devo pensare quando devo mangiare, quando sono di fronte a una grigliata? Magari siete matti, oh, Roberto. Buona la grigliata. Vai, dimmi Roberto. Allora, buonasera, complimenti a tutti e due. Volevo fare gli auguri anche a Sgarbi. E fai gli auguri a Sgarbi, dai, però no, non trasformiamo la cosa in un auguri a Sgarbi, divento pazzo, dai. Roberto, no, dimmi. Volevo dire che è 2-3 anni che una porta che va giù nel garage è un po' difettosa, ogni tanto mi cadeva. Ma da quando è successo quel fatto dell'omino che è morto nel fassonetto? Sì. Un po' di dubbi, dicono, ma se viene un ladro che mi viene a rubare, gli casca sta porta nella testa. Allora oggi ho chiamato il fabbro, io ho speso 200 euro, così quanto l'ho messo a posto, che se dovesse venire così è tutto a posto, hai capito? No, non ho capito, hai chiamato il fabbro e che cosa hai fatto? Ho fatto mettere a posto la porta, perché avevo un po' di paura, ho detto che se mi viene un ladro dentro, in casa, che mi passa in quella porta, gli casca nella testa e muore, dopo mi chiedono anche i danni, capito? Allora la provocazione ci sta, però, perché come il cassonetto. Vabbè, Roberto, dai, ma nessuno ti chiederà i danni perché magari la porta difettosa taglia il piede al ladro. Dai, Roberto. Ciao, Tino Arezzo. Tino Arezzo, sì, oddio, in Italia non si può mai dire. Tino, vai. Pronto. Dimmi. Ma dimmi, cioè io sento i vegani, io faccio il cacciatore. Ho ammazzato 6 cinghiali sabato scorso. Quanti ne ha ammazzati? 6? 6, cioè si è trovato il branco, 18 in tutta la squadra. A me ne è passati 6 in tutta la mattina, l'ho presi tutti. Ma spiegami un po', come si ammazza un cinghiale materialmente? Cioè, allora, dici la tecnica di caccia? La tecnica di caccia, cioè quando tecnica di caccia, guarda, te la semplifico facilmente. Sì. Immagina un ferro di cavallo. Sì. Nel ferro di cavallo vengono messe tutte le persone. Si chiamano postaioli, fermi lì ad aspettare. Sì. La parte aperta del ferro di cavallo ci sono i canai con i cani. Sì. E quindi i cinghiali vengono spinti verso le poste. Poi non è così semplice come te l'ho descritta, però fondamentalmente vanno verso le poste. Molto spesso te vengono addosso, te sei lì in mezzo, passano dal viottolo e gli spari. Beh, però dunque, cioè vengono come dire quasi inseguiti dai cani, quindi indotti, esatto, a venire verso, sì, i fucili. No, non senza quasi, Parenzo, proprio cioè è il cane che trova il cinghiale. Per cui non è difficile ammazzarli. Beh, è difficile trovare dove sono, sì, a volte le aree sono molto vaste. Domenica per esempio ero vicino a un fosso, la posta che avevo più in là era molto distante, i cinghiali hanno bucato e me li sono trovati all'improvviso che correvano in discesa alle mie spalle. Sparare a un animale che corre in discesa a 40 metri non è poi così facile. Ma tu sei bravo? Cioè hai una buona mira? Abbastanza. Cioè sì, li ammazzi al primo colpo? Puff, puff. Dipende, cioè allora... le armi che utilizziamo sono queste. Al primo colpo il cinghiale, se lo prendi, qualsiasi altro animale, ammazza anche i caprioli, li devi stendere, cioè non si devono rialzare, perché l'animale ferito è una crudeltà e un problema. Quindi col secondo colpo li steccoli. Funziona così. Comunque ti dicevo, cioè questi la devono finire. Ma com'è il cinghiale? Com'è il cinghiale? Buono. Allora, il cinghiale, se lo sai lavorare, frollare bene, è buono. Si fa un bel sugo. Io l'altra sera c'avevo. Poi c'è anche il lardo, c'è anche il lardo. Io, come sapete, non posso mangiarlo. Lo puoi lavorare come un maiale. Non è che la cosa mi interessi molto come si cinghiale, ragazzi. Come si fa? Lascia stare. È un maiale selvaggio, più grasso. Dai, è un maiale più grosso. Sì, no, la carne è un po' più forte. Comunque, vabbè, ragazzi, l'altra sera avevamo due taglieri di sugo di cinghiale, polenta e amarone. E chi ti ammazza? Chi ti ammazza? Cioè tu ammazzi in realtà, però ammazzi, insomma, vai a caccia, non è che ammazzi, sì, ammazzi gli animali. Ascolta, io guarda, ma ti rompono i coglioni a te gli animalisti questi qua o no? No, io guardo, lavoro con la forestale, lavoriamo anche con il parco. Ma hai quando ammazzi un cinghiale senti l'adrenalina addosso o no? È una caccia adrenalinica al massimo. Cioè, proprio c'è il brivido dell'uccisione del cinghiale. Allora, immagina questo animale che te esce a 5 metri. Sì, l'ho ammazzato uno a settembre, 120 kg. Con i cani dietro, non sai da dove sbuca, c'è il fucile in mano. Beh, sono 5 minuti di adrenalina pura. Ciao, fermo. Pura. Ciao. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzare. Ancora più presenza, ancora più informazione, ancora più storie, ancora più ascolto. Per noi è questa la vera festa. Tanti auguri da Radio 24, perché la passione si sente anche a Natale. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. In questi giorni di festa, Radio 24 ti augura buon ascolto, buona informazione, buon divertimento, ma soprattutto buon Natale. La Zanzara. Giuseppe, ho fatto il pazzo per farmi installare il wifi solo per ascoltare la Zanzara da Madrid. Saludos! 6 di mattina, North Yorkshire, solo i cucù di Parenzo e gli eccetera eccetera di Cruciani. Purtroppo anche stasera sprecherò 2 ore della mia vita per ascoltarvi. Non ce la faccio purtroppo a non accendere la radio. Sono diventato uno zanzara dipendente. Siete peggio della droga. Andate a fanculo. Ciao. Lui si chiama Massimo Wertmüller. È, credo, il nipote della famosa regista. Certo. Anche lui attore, regista e però animalista convinto e credo pure vegano. Senti cosa dice Parenzo, senti cosa dice. Ma basta pensare che se tu togli l'ape al mondo, il mondo muore. E poi gli animali, è stato anche sfiorato questo tema, sono inquilini più antichi di noi di questo pianeta. Quindi noi non dovremmo avere mai nessun diritto a togliere la vita a loro. Ah, cioè il ragionamento è sono sono cittadini più antichi, cioè sono abitanti più antichi del pianeta, capito? Ma chi però se non ne vorrei frega? Deluderti, ma sull'ape, cioè sì, sul ragionamento no, sull'ape, dell'ape, sì, molti mi hanno detto che ha ragione. No, ha ragione, ho studiato la pratica. Sì, che le api, se non ci fossero le api, sarebbe, diciamo, un disastro. Le api sì, sono fondamentali. Sono fondamentali, vabbè, sono sì, fondamentali, sono fondamentali, certo. Perché ma infatti nessuno vuole allora, fare ma devi sapere che api, tutte queste persone che abbiamo raccolto, cioè questo signore di prima, di anima sì, animale, Sio Bertie Müller, erano ad un convegno organizzato da un esponente Five Stars, che si chiama Bernini. Che si chiama Bernini, ah no, Bernini mi dice qualcosa. È anche Bernini, vegano, Sio Bernini, quello del microchip, eccetera, eccetera. Microchip, ecco, ma certo, assolutamente. Sì, sì. Sentiamolo, il signor Bernini. La mia presenza come portavoce parlamentare del Movimento 5 Stelle ha determinato la scelta di portare in Parlamento questi temi ed essere portavoce almeno di 6 milioni di vegetariani e vegani in Italia e soprattutto di tutti gli animali, senza distinzione di specie e per questo di diritti di cui sono naturalmente portatori. Delle idee meravigliose, quello che facciamo porta a sconfiggere la fame nel mondo. Poi aspetta, facciamo politica ogni giorno al supermercato, questa è bella però, eh? Cioè quando tu vai a fare la spesa fai politica, questa è meravigliosa. Io trovo tutto questo meraviglioso, però vorrei fare una domanda a Grillo, se è qui presente con noi, come è sempre presente con noi spiritualmente. Ma Grillo è vegano, sì o no? Perché poi questo è fondamentale. Ma intanto vaffanculo, intanto, ma di che cosa parlate? No, ma sei questa... vegano o no? Beppe, sei vegano? Certo, o no? Certo, ma tutti sono vegani, il 99%, in Germania è ma chiunque. Ma tu non sei vegano, questa è una novità, non sei mai vegano, stato vegano. Ma vedi, a casa mia non si mangia, non c'è niente. Ah, non si mangia nulla. L'energia elettrica, il frigo, è tutto staccato, tutto funziona con un autocombustibile, si mangia la merda. No, vabbè, cioè, per fare la merda devi mangiare però. Le feci, devi mangiare le feci degli animali, le feci delle api che sono il miele, non sapete come funziona, non sapete niente. No, ma sei vegano o no? Questa è la vegano, domanda, mangia soltanto tanto l'erba, la frutta, la verdura, e senza neanche strapparla dall'albero, come in Germania, perché se la strappi lo ferisci l'albero. Quindi non devi neanche strapparla anche, la mela. Anche questa è diventata. È normale, vegana. In Germania la Merkel è vegana, tutti sono vegani. Ma non è vero, ovunque. Ma non è vero. Norvegia, Svezia, solo tu, solo la radio della Confindustria è carnivora, anche nei nomi di questi personaggi che vi governano. Squinzi, ma come si fa? Ma che barisoni, ma è questa gente che distruggerà il mondo. Ma che c'entrano i nomi adesso? I nomi, squinzi, la gente, squinzi. Certo, squinzi, ma è carnivoro, dice, carnivoro. Ma è evidente, carnivoro, Cruciani, tutta gentaglia, il mondo è vegano. Ma pure Parenzo è carnivoro, Parenzo ma fa schifo, ma anche il nome, pare un nome di una città, ma come si fa? È gente miserabile, penso, gente morta, ma le foglie, vabbè, la bellezza di una foglia. Abbiamo capito, le bellezze di una foglia. Allora ragazzi, Fabrizio da Firenze, vai. Ma tu vuoi mettere però, scusami, la città di Pontoglio? Sì, sì, aspetta, adesso ci arriviamo a Pontoglio. Fabrizio, no, perché Firenze. Io vorrei dire qualcosa su adesso Pontoglio. Adesso ci arriviamo a Pontoglio, non ti preoccupare. Fabrizio da Firenze, calma, vai. D'accordo. Con calma. Vai, Fabrizio. Io sono un cameraman. Bravo, cameraman, grandi personaggi, sempre grandi personaggi. Sono stato al funerale di Gelli. Sai che i cameraman fanno sempre delle stragi pazzesche di cuori, cioè fanno sempre storie pazzesche con giornaliste, giornalisti, a seconda del sesso, naturalmente, sì, dei gusti sessuali. È un classico, no? Cameraman sono dei mandrilli pazzeschi, Vabbè, Fabrizio. Davvero, ci si arrangia, dai. Dai. Niente, sono stato perché c'è il fascino, c'è il fascino di quello con la telecamera, no? Del camera, sì, camera, un po' anche brutale, più, se vuoi, brutale. È più grossa ce l'hai la telecamera, è più. Vabbè, adesso, okay. Insomma, adesso non volevo aprire questo dibattito, insomma. No, io dicevo la telecamera. Ah, la telecamera, vabbè. Fabrizio, dimmi. No, io oggi sono stato al funerale a filmare il funerale di Licio Celli. Oh, sei stato testimone del funerale di Licione nostro. Del nostro Licio, del nostro amato Licio Celli. No, amato un corno, ma non importa. Beh, amato Licio Gelli. Amato da te. Comunque, ragazzi, un personaggio incredibile sta il signor Gelli, Cioè, sì. Non lo rimpiangiamo. Comunque, sei stato al funerale. Che hai scoperto? No. Che hai visto? No, tu dicevi che c'aveva il carro funebre con la... No, con la... ma sembra che l'abbiano portato con una spilla sopra, no? Carro funebre col drappo fascista, ho detto. Mica ho detto questo. No, pare che sulla salma ci fosse, ma sì, perché lo voleva lui, no, un pare. Segno di riconoscimento fascista. Adesso non ho visto bene le foto perché oggi è stata una giornata pazzesca. La storia c'era solamente poliziotti e cameraman e sì, fotografi. E quattro mi hanno detto quattro vecchi, quattro anziani. E quattro pistolieri, sì. Però di gente, niente, tutto. Non c'era nessuno, niente, in pratica. Sembrava un funerale come quelli normali. Sì, ma sai, la gente, anche i veri amici, non è che si fanno vedere in quell'occasione. No. Beh, capito, quelli veri, quelli che l'hanno sempre seguito, quelli che, no, che lui ha favorito. Insomma, non è bello farsi vedere a funerale di Gelli. Ti fanno le foto, ci sai te che fa le immagini. Posso dire Cruciani del coniglio? Dimmi, Fabri, dimmi. Io tre mesi che mangio coniglio e mi è abbassato il colesterolo. Ah, dici, Ma tutti non, i giorni coniglio. Ma non credo che sarà per il coniglio. Tu dici per il coniglio? No, certo. Ma mangerai meno formaggi, amico mio, dai. Assolutamente, coniglio. Coniglio fa abbassare il colesterolo. Grande, Fabrizio, ciao. Daniele, ciao, Milano, Daniele Milano, vai. Ciao. Allora, dimmi, il vegan è un'ideologia. È un'ideologia tanto. Bello che questa trasmissione si trasformi. Aspetta, adesso torno subito da te. È bello che questa trasmissione si trasformi a un certo punto a seconda degli argomenti. Siamo diventati una sorta di bandiera, secondo me, della libertà. Una grande bandiera della libertà. No, perché qualcuno pensa, e non faccio i nomi, qualcuno pensa che noi facciamo delle provocazioni, e non faccio i nomi perché non me ne fotte un cazzo. No, no, facciamo i nomi. No, non me ne frega niente. Perché aprire discussioni sull'inutilità, su cose inutili, non me ne frega niente. Ma poi ognuno è libero di pensarla come vuole su questa trasmissione, figuriamoci, non è quello il punto. Però qui non c'è la provocazione fine a se stessa. C'è anche quella ogni tanto, perché fa parte dello showbiz di cui tutti fanno parte, però. E mi rivolgo a tutti, di cui tutti fanno parte. Però dico semplicemente che in questo caso non c'è provocazione fine a se stessa, c'è una grande battaglia di libertà. Esattamente per quelle cose che sta dicendo Daniele. Cioè, saresti pronto a organizzare una sorta di grande marcia, come si fece per la Fiat, la marcia dei 40.000? La marcia dei carnivori. I 40.000 carnivori, come i 40.000 colletti bianchi. Il romiti dei carnivori. I 40.000 carnivori, come i 40.000. Perché basta, perché ci stanno rompendo i coglioni questi qua. Tu devi sapere, Parenzo, che uno della LAV, mi appassiona, ha mandato una lettera, perché una grande battaglia di libertà contro il nazi-veganesimo, contro l'oscurantismo, contro il pensiero unico, eccetera eccetera. Beh, questi della LAV hanno mandato una, mica hanno il coraggio di mandare una lettera a me, mandano una lettera ai superiori. E chi l'ha mandata? Ma sì, ma è inutile. A Roberto. Sì, era la lettera. Fate presto, portate la lettera. È arrivata la lettera. Quei due con gli mamma mia, quei due, guarda, quei due lì, Romiro, vieranno. Si va sul penale. È arrivata la lettera? Allora, Daniele, vai. È arrivata la lettera. Allora, secondo me, quelli che dicono che siamo tutti vegani, è la stessa idea di Cecchi Paone che dice che siamo tutti bisessuali. Cioè, è lo stesso. Adesso, questo qua un po' è vero, in realtà. In realtà un po' è vero, amico mio, che siamo tutti un po' bisex, dai. No, vabbè, ma adesso vabbè, perché dovete dire queste cose? Ma siamo tutti un po' bisex. Ma siete voi, io sono eterosessuale. Ma siamo tutti un po' froci, dai. Tu sei froce, ma siamo tutti un po' froci. La froceria è in ognuno di noi. Ma va benissimo, ma io sono eterosessuale. È in ognuno di noi la froceria, è normale. Sei come i vegani, Cruciani, se dici così. Vabbè, ma non dire stronzate, dai, su. Daniele, dai, non mi offendere, se mi dai del vegano mi offendo. Non mi offendere. Sto scherzando. Ascolta, no. Però, vabbè, è un dato di fatto che gli animali sono inferiori agli uomini. Cioè, nel senso ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma parliamo dell'ovvio. Stiamo parlando dell'ovvio. Noi ce li teniamo per compiacenza a casa. Cioè, non è che ce li teniamo perché ci fanno piacere. Cioè, noi soddisfano un nostro bisogno. Certo, è una di forma di egoismo su quelli che sono. Dovete diffidare di quelli che vivono per gli animali. Perché la loro è una forma di puro egoismo. No, ma non è detto questo. Puro egoismo. Quelli che vivono per gli animali. Però questo vogliono soddisfarsi, vogliono titillare il loro ego. Non è vero, ci sono persone sole, pensionati soli, ad esempio, che grazie agli animali ritrovano una ragione di vita. Questo va riconosciuto, poverini. Ci sono un sacco di anziani soli, di vecchietti, che grazie al cagnolino, al gattino, al coniglietto, anche sì, anche grazie al coniglietto. Mario da Roma. Dai, a rispettare. Mario, dimmi. Mi senti? Parla, amico mio, dai, forza, togli via la voce, quello che è. Volevo intervenire sulla questione dei risparmiatori che hanno perso denaro con le obbligazioni subordinate. Sì, lo sappiamo, dai, non c'è bisogno che hanno operato, diciamo, in maniera non proprio lo sappiamo, che volevi dire? Allora, io volevo sapere, diciamo, a me sembra che questi risparmiatori si sentano in qualche modo traditi dalle istituzioni, perché non ricevono alcun sostegno che poi ricadrebbe anche sulle spalle della collettività. Ora, senza voler togliere nulla alla gravità della situazione che queste persone subiscono e vivono, però mi domando perché non si debba parlare di chiunque abbia perso dei soldi in una truffa commerciale. No, ma io sono d'accordo con te al 100%, Mario. Cioè, sono d'accordo con te, no al 100, al 200%. Non si capisce perché. Casi diversi. Sono tutti casi diversi. E allora, Si capisce perché. Non si capisce semplicemente per motivi politici. Per motivi politici debbano essere spesi soldi pubblici per rimborsare delle persone che, per carità, noi, io sono molto vicino a queste persone qua, ma sono stati truffati, se la prendessero con chi li ha truffati, ma che cazzo c'entriamo noi? Perché bisogna mettere soldi nostri per salvare questi qua? Spiegami. Infatti, per rimborsare questi. Si ipotizza di mettere soldi nostri. Perché bisogna mettere soldi nostri per rimborsare uno che ha perso un investimento, è stato truffato da qualcuno? Si rivolga alle banche, ai dirigenti di quelle banche, li vada a prendere sotto casa, impicchi, li porti in piazza, facessero quello che vogliono, ma i soldi nostri perché? Per quale motivo? Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocracy. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Oh Cruciani, devi baciare il culo alla mosca perché è perfetta e batte le ali in maniera proprio meravigliosa. Bacia il culo alla mosca, la zanzara che bacia il culo alla mosca. Siamo al top. Allora, caro Parenzo, adesso ti leggerò il passo di un libro. Pensa te, il passo di un libro. No, un po' di cultura, libro. Molto bene. Allora, il passo di un libro, dovete indovinare, è molto difficile, però qualcuno ci può arrivare. Che libro è? Non è un solito quiz assurdo che hanno già fatto, eccetera, perché il passaggio che vi sto leggendo è molto significativo, aprirà una discussione come quella che abbiamo già avviato sul fatto, sulla domanda: ma secondo voi chi va con un transessuale, cioè un uomo che va con un transessuale, è omosessuale, è gay, sì senza o no? Dubbi, e senza dubbi. Per te è gay? Senza ombra di dubbio alcuno. Per Luxuria no, per me no, per altre persone no, per altre persone sì. Si è aperto un grandissimo dibattito e, diciamo, da domani in poi, anche da oggi, forse lo allargheremo all'universo mondo, sì, esponenti della cultura, intellettuale, certo, eccetera, eccetera. Certo, come no. Vi leggo questo passaggio, vediamo chi è il primo che indovina chi ha scritto queste cose. Orgasmo. Sia stramaledetto per l'eternità e dannato agli inferi chi ha messo in testa alle donne che avrebbero un diritto all'orgasmo. Eh sì, perché molte pensano questo, caro Parenzo. Questo è un mio inciso. Da allora l'atto sessuale, già così inquietante per il maschio, è diventato un torneo. Se lei non ha almeno 18 orgasmi, clitoridei, vaginali e persino anali, si sente defraudata. Ora, l'orgasmo femminile è la cosa più misteriosa e indecifrabile dell'universo. È come l'araba fenice. Che ci sia, ciascun lo dice. Dove sia, nessun lo sa. Non è finita, dovete indovinare. In ogni caso, a differenza di quello maschile, è un contemporaneo, vero? In ogni caso, a differenza di quello maschile, così evidente e banale, non può essere provato. Lui quindi resta sempre nel dubbio. Sei venuta? Lei è insoddisfatta perché, ammesso che esista, si tratta in ogni caso di una difficile, complicata e rara composizione alchemica. Nemmeno le donne sanno mai fino in fondo se hanno avuto questo benedetto orgasmo. Spesso si illudono di averlo avuto o si autoconvincono o fingono. Aver affidato a questo elemento impalpabile il destino della coppia è un errore madornale tipico della modernità, che ha il brutto vizio di affermare dei diritti impossibili, come quello alla felicità o all'uguaglianza. Ho finito, eh? Più saggi erano gli antichi, che sapevano che la vita è innanzitutto privazione e dolore, e che quindi tutto ciò che viene in più non è noia ma grasso che cola. Tommaso da Velletri. Signor Tommaso da Velletri. cazzo sta facendo questo, Parenzo? Ma che roba? Ma che cazzo? Tommaso? Ma chi è sto maiale? Tommaso? Che cos'è, il piscio? Vai, impazzito questo qua. Ma gente, cioè, però fatti delle domande. Però questo, che c'è gente autorizzata, ma nelle altre trasmissioni fanno così, secondo te? Fatti delle domande. C'è Tommaso D'Avellini, come si chiamava questo qua? Tommaso D'Avellini. Chiamalo un po'. Sto, ma ti vede che uno mi smetta a fare la pipì in diretta o una trasmissione radiofonica del prime time della Radio 24? Cioè, ma secondo te era la pipì quella là, la pipì in diretta con ma lo sciacquone? Ma lo so che quella è una porcheria di un cretino, però, di un cretino maleducato e anche schifoso, peraltro. No, ma richiamatemi questo che ha pisciato però con lo sciacquone, scusate. Schifo, mi fa. Fra poco, recuperate il numero lì al centralino e richiamatemi questo qua, dai, su. Allora, Daniele da Venezia, vai, Daniele. Ma ti rendi conto che schifo? Ciao, finalmente dopo anni riesco a parlare con te. Oggi mi hai fatto incazzare. Pronto? In che senso ti ho fatto incazzare, Daniele? Dimmi. Perché hai detto, secondo me, una gran cazzata che i grillini hanno fatto l'inciuccio. Sì, ma è un modo di dire, amico mio, perché siete così precisini quando si tratta delle cose vostre? Tu probabilmente sei un elettore, un simpatizzante. Devi, e invece, devi. Aspetta, stai fermo, stai calmo, parlo io e poi parli tu, non c'è problema. Ma allora, quando tu, che immagino sei un militante dei 5 Stelle, un militante grillino, quando pare degli altri sei così sempre tranchant, deciso, no? Alla taverna, un sacco di... Ma a me piace questa roba qui, tra l'altro. E quando invece si tratta di voi, siete sempre lì a dire no, non è successo questo, invece sì, no, ma guarda che invece no, che guarda che invece ci sono sempre delle subordinate quando si tratta di voi. Quando si tratta degli altri invece, giù bastonate, ammazzate, giustamente. Ma devi cambiare. Ragazzi, avete votato insieme con un accordo implicito, chiaro, con un accordo chiaro. No, ma guarda, Cruciani, sai perché hanno fatto 32 elezioni? Lo sai? Ma quello che c'entra, ma quello va perché bene. Perché volevo a Forza Italia votare il certo. Noi abbiamo detto no, se togliete quello è a posto. Ok, l'hanno tolto, sì, l'abbiamo capito, votato. Ma nel passato ti ripeto, io mi faccio portavoce anche dei tantissimi elettori dei 5 Stelle che non condivido naturalmente in questa roba qua, perché a me non me ne può fregare di meno di queste cose della Corte Costituzionale, come puoi immaginare, sono impelagati in altre cose, vegani, cause legali, altre cose ancora, figura che me frega a me di due stronzi che prenderanno 400.000 euro, non loro, in generale, che prendono un sacco di soldi con bene fit pazzeschi eccetera, questi sì, bisognerebbe, però, Cruciani, bisognerebbe guarda, fare siamo l'unica opzione che c'è in Italia per migliorarla un po', ma io questo non lo so, può darsi che abbiamo Daniele, in Parlamento. Daniele, può darsi che sia così e io ho anche votato alle ultime elezioni 5 Stelle, tra mille difetti resta ancora secondo me restano delle cose positive, poi certo c'avete quelli che fanno le cose vegane come Bernini, ma per carità, i vegani esistono pure in Forza Italia, c'è la Brambilla, non è che ci stanno solo tra i 5 Stelle, però il problema dei vegani, no, però scusami Daniele, voglio concludere. Ho recuperato, anzi il professor Becchi segnala che il nel blog di Becchi, sì, che non è più grillino, tra l'altro, cioè non cos'è? È più grillino. No, adesso è in rotta. Comunque sostiene che sul blog di Grillo ne dicevano di tutti i colori nei confronti del professor Barbera, che è uno di quelli che è stato eletto. Però lasciamo questo argomento perché mi annoia profondamente, Daniele, mi annoia profondamente. Io ho parlato di accordo e di accordo si è trattato, bisogna dirlo chiaramente. 5 Stelle hanno fatto un accordo con il Partito Democratico. Punto. Certo. Basta, dai, Daniele, dai. D'accordo. E a molta gente questa cosa non va giù. C'è molta gente che è dura, che come dire, ma no. Perché non hanno capito? Vabbè, non hanno capito. Fateglielo capire voi. Io non faccio il politico dei 5 Stelle. Fateglielo capire voi. Tutti quelli incazzati che sul web, che è il vostro mondo, scrivono inciucio, eccetera, eccetera. Fateglielo capire voi. Ma giustamente, poi se ne fottono i dirigenti dei 5 Stelle. Vai, cioè, Daniele. Voglio dire, sta roba della rete è già finita, terminata, morta. Vai. Senti un altro qua. Vai, Daniele, ma no, ma giustamente è evidente che sia così, dai. No, Daniele, prima che parlavi dei vegani, mi è sorto il dubbio se io trovassi una morosa vegana, amorosa, mi farà un pompino. Cosa? Tu cosa dici? Perché? Che c'entra Pompino adesso della Ah, perché tu dici. Questa è una vecchia questione. Che, no, che non vorrei aprire alle 19.43, francamente. Cioè, se la donna. Non ho guardato l'ora, no, dai, se sono arrivato a casa. Se la donna vegana può come dire, mangiare certe cose, questo è il punto fondamentale, no? Non lo so. Sì, per coerenza dovrebbe stare attenta anche a queste cose. Enrico da Livorno, vai. Enrico. Ciao Cruciani, buonasera. Ciao. Senti, io penso di capirti abbastanza quando dici che i vegani rompono i coglioni. Questo perché dall'altra parte io mi sento abbastanza oltraggiato da 20 anni, visto che sono vegetariano. Tutte le volte che mi metto a tavola c'ho qualche rottura di coglioni di qualcuno che è onnivoro e quindi mangia anche carne, che evidentemente si sente oltraggiato dal fatto che io mangio vegetariano. Io non ho mai rotto il cazzo a nessuno, sì. Mentre invece a me mi hanno scoppiato i coglioni. Chi ti hanno scoppiato i coglioni? Ma chi? Chi mangia carne? Ma non si chiamano mangia carne, è gente normale. Anche questo modo di chiamare le persone i mangia carne, i mangia cadaveri. Ma basta, avete rotto i coglioni, dai. Hai rotto i coglioni anche te. Ma io non ho rotto i coglioni, ma sono gli altri che vogliono togliere. Io mi ero pure dimenticato dei vegani a un certo punto. C'è pure una trasmissione qui che si occupa di animali, per carità, bellissima, preziosissima, quello che ti pare, di cui ho grande rispetto, come di tutto, per carità. Però il problema fondamentale è questo, caro Enrico. Io mi ero anche dimenticato di queste questioni. Se non ci fosse stata la questione del coniglio, mi vogliono togliere il coniglio, io il coniglio voglio continuare a mangiare. E devo dirti la verità, mi ero anche dimenticato di mangiare il coniglio. No. Cioè, sì, mi ero anche dimenticato, Parenzo, ti giuro. Ti dà l'idea che tu, pur di fare una crociata. No, mi ero anche dimenticato. Io il coniglio in realtà lo mangio poche volte, me l'ho anche dimenticato. Da quel momento in poi, cioè, mangio coniglio una volta ogni 10 giorni, una volta ogni... l'ho mangiato una volta, due volte a settimana. Ci hanno fatto tornare un sacco di gente, questi matti, hanno fatto tornare voglia di mangiare i conigli. È cioè, il contrario. Da quando facciamo questa trasmissione, è stata un'impennata di morte di conigli. Questo no, dici? Secondo me no, di morte di conigli non lo so, perché gli allevamenti per colpa della campagna. Poi che mi pubblicano queste cose incredibili, no? Negli allevamenti dei conigli, no, per metterti paura, danno da mangiare delle cose orribili, sono trattati ma come se uno gli venisse voglia di non mangiare il coniglio. No, ma ragazzi, no, sì, può darsi, metteteli in galera, denunciateli. Se fanno delle cose contro la legge, denunciateli, non ci scassate la minchia sul coniglio, dai. Enrico, io non ho capito, tu sei vegano? No, assolutamente. Vegetariano, che sei? Diciamo vicino al vegetariano. Vabbè, ma d'accordo. Però non rompi i coglioni, non è che pensi che io so. Perché mi chiami mangia cose? Com'è che mi hai chiamato? No, ho detto che mangia carne, ma perché, scusa, come si dice carne? Ma non sono mangia carne, sono Giuseppe Cruciani, come lui è David Parenzo, tu sei Enrico. Io non ti chiamo, Enrico il vegano. Ti chiamo così perché adesso la radio per riconoscerti. Però non è che ti incontro e ti dico Enrico il vegano. Cioè, altrimenti tu diventeresti pazzo. Tu diventeresti pazzo, giri per strada, dovresti dire, ecco, guarda quanti mangia cadaveri, sono circondato da mangiare cadaveri. No, ma per me non siete, anche perché io la carne ogni tanto la mangio, come mangio ogni tanto. Beh, allora, se mangi la carne, ma vegetarianesimo, che ce fai? E ti ho detto, sono stato vegetariano abbastanza ferro e poi mi sono reso conto che le esagerazioni non vanno bene da nessuna parte. Cioè, la cosa più sbagliata, secondo me, non per fare il buonista, è l'esagerazione, anche perché poi porta all'allevamento esagerato di animali e poi mangi cacca invece di mangiare un prodotto buono. È così come l'agricoltura intensiva, poi ti porta a mangiare della cacca, allora poi hai problemi anche nell'avere energia, stai male. Diciamo no, l'hai capita questa, Parenzo? Bene. Io stavo leggendo dei messaggi e mi sono perso l'ultima parte di Enrico, scusami Enrico. No, ho capito semplicemente che lui dice, sostanzialmente... Ho capito un cazzo, guarda, ad essere sincero. Scusa, Enrico, cos'è quella roba sulla cacca? Ho capito che lui non è vegano, non è vegetariano perché mangia la carne ogni tanto, questo ho capito. Sì, esatto, a me le esagerazioni non mi piacciono. Io penso che se ognuno di noi riuscisse a mangiare una quota giusta di carne, perché poi la carne è anche buona, vabbè, ma questo qua i è vegetariani giusto, o i vegani non possono dire che non è vero. Però ti dico anche che se non ne mangiamo un'esagerazione, mangeremo anche un prodotto buono. E allora ci sarebbe veramente meno oltraggio anche all'animale. Ma che oltraggio? L'oltraggio l'oltraggio all'animale si fa solo quando si violano le leggi. Bravo. Si violano le leggi sul maltrattamento, sugli allevamenti. Ma va bene, ma io, amico mio, quando ci sono delle leggi violate, non c'è problema, mi troverai sempre al tuo fianco. Quando si tratta di chiamarmi mangia cadaveri, mangia, io mi incazzo e ti mando a fare in culo, chiaro? Ciao. Abbiamo trovato la strada, i medici si opponevano. collegamento con Vittorione. Dai, proviamo, proviamo un po', proviamo un po'. Vittorione ricoverato all'ospedale di Modena. Eccolo. Ma che combini, Vittorio? Come stai? Io nulla, ho combinato poco. È andato a bere lo stesso. Ma sembra qui dobbiamo conquistare Milano, ti devi rimettere su. Sì. Che ti è successo? Raccontaci un po', innanzitutto. La dinamica. La dinamica è inesistente. Per partire erano perfettamente normale, cioè non avevo nessun malessere. Ho sbandurchiato qualcosa. Quando, andando avanti per un'oretta, arrivo verso Verona, poi un po' dopo Pegognaga, e lì comincio ad avvertire uno strano peso sul cuore, una forma di irritazione che si diffonde al basso sinistro. Devo dire che l'ipotesi dell'infarto, dell'ischemia, mi è venuta subito, mi sembrava così. Ma vuoi mettere che l'infarto viene da me, avrà paura, sta lontano, non muoverà lo stronzo. Però pensavo che lentamente passasse. Però quando mi sono reso conto che questa pressione era continua e non minacciava di finire, sì, come capita spesso con i dolori, ho avuto un'intuizione nell'arco di mezz'ora. Quando la cosa si è fatta acuta a Mantova, poi un po' trovato per andare meglio il sedile, arrivato a Modena Sud, ho detto: guardi, non mi sento bene, all'autista Guido, andiamo, sì, all'ospedale. E siamo usciti proprio a Modena Sud, arrivando al policlinico, sì, dove appena sono arrivato, Garbi cosa fa qua? Mi hanno messo sulla barella, mi hanno raccontato un po' di battute, hanno fatto una prima visione al pronto soccorso. Immediatamente dopo, almeno 7-8 tra medici assistenti, svegliati prontamente, anche perché non volevano fare una figuretta con me, e mi hanno immediatamente sottoposto a una specie di operazione, mettendomi sonde dappertutto, sì, che devo ancora, per dilatare lo spazio della coronaria e quello che deve passare il sangue. Dopo tre quarti d'ora, verso le 4:15... Cioè 7-8 medici addirittura? Sì, sì, c'era un team meraviglioso, tutti bravissimi. Poi mi hanno detto: guardi, questa è la cosa più singolare, quando hai un incidente stradale pensi che puoi morire. Io non ho pensato affatto questo, anzi pensavo di non avere nulla, che non ci fosse. Però dice: lei ha avuto questa ischemia e dobbiamo... Se lei andava avanti per altra mezz'ora, sarebbe morto, che è la morte di Piero Daniele. Quindi o la prendi subito questa cosa, o ti aspetti, a questo punto il sangue finisce di confluire del cuore e tu muori. Ma hai dei precedenti in famiglia? Cioè qualcosa per cui... Sì, i miei nonni morirono di infarto tutti e due. Mio zio è morto di infarto alla mia età. Ma la vera notizia è che tu starai fermo per 3 giorni in un posto solo. Quindi in un posto... Guarda, sì, ho dovuto annullare 26 impegni, ecco, e mi operano lunedì di nuovo le altre 2 coronarie. Quindi ho una seconda operazione perché il cuore sia poi... Quindi per la prima volta in vita tua starai fermo in un posto per più di 4-5 giorni. È pazzesco. Sì, è una tragedia. Poi a Modena. I medici non ti hanno detto di stare un po' più fermo, un po' più calmo, invece di fare l'inferno in giro per l'Italia? Cioè, non c'entra niente? No, non mi hanno parlato di questo. Mi hanno detto che devo stare fermo questi giorni, ma mi hanno detto che mi daranno un cuore talmente straordinario che potrò fare qualunque abuso. Qualunque abuso? Qualunque abuso? Anche di qualche sostanza, che ne so, anche di Viagra? Beh, di questo non abbiamo parlato, però se ne può parlare. Insomma, adesso chiedo quante ne possiamo assumere, no? Già mi ieri sei parlato che devo prendere un po' di medicine, però... Ma tu pensi alla morte? Mai pensato. Mai pensato alla morte? No, ci penso, nel senso che vivo in questo modo per non pensare alla morte. Io ieri sera alle 3:45 ero a mezz'ora, se fossi andato verso Roma, a Roncobilaccio sarei morto. Saresti morto a Roncobilaccio, che non è proprio il massimo della vita, morire, per carità. Come vuoi morire? Se ci devi pensare un attimo, come preferiresti morire? Beh, come mia madre. Mia madre si è appoggiata sul fianco e sono più svegliato. Non hai mai pensato che se dovesse arrivare voglio morire così? No, non c'è mai. Non l'ho mai pensato, non penso neanche di morire. Che voglio dire, che io possa anche non morire è determinato da un precedente, c'è almeno uno che non è morto. Si chiama Gesù. Se non è morto Gesù, perché dovrei morire io? Ma anche perché poi risorgere. E hai fatto testamento tu? Non credo, no, testamento. No, non l'hai mai fatto, non ci hai mai pensato a fare testamento? No, l'unica cosa che ho pensato è di fare una fondazione che sia legata al mio nome, che quindi nel testamento non c'è niente che vada a qualcuno se non che si occupi delle cose che io ho raccolto nel corso degli anni, come in un museo. Adesso invece che sono vivo faccio quel cazzo che mi pare, no? Ciao Vittorio, ciao, a presto. Ciao, ciao caro. Ciao, ciao. Comunque mi sembra in grande forma Sgarbone, eh? Mi sembra considerando quello che ha rischiato, caspita. Coccolone ieri sera, ischemia. È già lì che risponde al telefono. Lo devono rioperare lunedì. Lo devono rioperare lunedì. Poi la cosa straordinaria è quello che ha detto: c'era un team di 7-8 medici che sono venuti tutti. Certo, è quando c'è una persona famosa, no? C'è l'affollamento no, in sala. Comunque, quello beh, no, comunque. Un po' sì, l'ha detto pure lui, la persona famosa. E poi ha detto una cosa incredibile: ha detto, io non ho fatto come Pino Daniele. Cioè, avessi fatto come Pino Daniele, beh, avessi sì, quello, fatto come Pino Daniele, questo lo dicono tutti, però non anche sarei la, morto. Anche l'ex moglie di Pino Daniele lo dice questo. No, ma per dire, cioè, non ho fatto. Sono salvo perché non ho fatto come Pino Daniele. Allora andiamo a Genova, Ugo, vai. Sì, buonasera. Volevo dire che sono profondamente contrario a chi dà il mangime vegano a cani e gatti e soprattutto a chi fa mangiare vegano i bambini piccolissimi, in fasce o comunque molto piccoli. Non ho capito, perché... scusa, sei contrario a che cosa? Al fatto che ci siano delle... No, il mangime vegano a cani e gatti. Vabbè, ma beati quelli che guadagnano su questa roba qua, eh. Cioè, io questo... Sì, no, per carità, loro sono bravissimi, però nel senso il cane e il gatto ha il diritto di mangiare quello per cui è stato... tra virgolette, non so, chiamiamo creato, e poi bambini piccoli li fa proprio male, nel senso, cioè è successo poco tempo fa un bambino all'ospedale perché gli davano da mangiare vegano, non mi sembra tanto il caso, nel senso. Sarebbe da prendere provvedimenti, non ma so, provvedimenti non di so. Che? Ma cosa vuol dire provvedimenti? Che provvedimenti, dai, su, non dire stupidaggini, dai, cioè. No, vabbè, però sono contro, nel senso, è una cosa che secondo me è veramente contro natura, uno fa quello che vuole. Quando è maggiorenne, ho capito, ma qual è il punto? Se vogliono dare, se questi qua vogliono spendere un sacco di soldi, ma mi rimettete Tognazzi? Gianmarco, riprendetemi un attimo fra poco Gianmarco Tognazzi, dai, perché questa cosa no, lui dice vegane... non agli animali, ai bambini forse. Ma no, ma anche bambini. Bambini, ma bambini, ma chi bambini. È? No, ai bambini è pericoloso, infatti è successo ma qualche volta. Ma ognuno fa quello se uno no, vuole, però, no, scusami, fa quello che vuole. Se uno vuole, ma non hai letto, scusa, è successo tante volte, alcuni casi di genitori cosiddetti vegani che hanno dato da mangiare alcuni prodotti vegani ai bambini che avevano bisogno delle proteine, però non è una cosa che ti... e sono stati ricoverati. D'accordo. Le cronache dei giornali è piena anche di ste robe qui. Ma figurati se io sono a favore del fatto che allora uno, che ha ragione uno... lui quando dice che sui bambini non è che uno si può improvvisare per i bambini una dieta vegana, è pericoloso, può essere rischioso. Ma ognuno fa quello che vuole, se vuoi nutrire il tuo bambino di ma non è che si può proibire, non puoi proibire, io sono contrario alle proibizioni, anche da questo punto di vista sono contrario alle proibizioni. Se tu sei talmente, come dire, fissato, convinto che puoi nutrire il tuo bambino con una ma dieta questo vegana, povero ascoltatore fallo, che hai aggredito fallo. Io non ho aggredito, no, scherzo, ha semplicemente ricordato una cosa vera, cioè che dare da mangiare vegano a dei neonati può essere pericoloso. Vabbè, se non questo, c'è una vabbè, dieta d'accordo, quello vabbè, anche dare da mangiare invece. Anche dare da e mangiare, io ti dico che potrebbe essere anche proibito, ma invece, che proibito, mamma, tu sei matto, io non voglio proibire invece... niente a nessuno, dai. Allora ammazza qualcuno, io sono a favore della libertà, della libertà, libertà totale, della libertà, libertà, libertà. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. La Zanzara. Perché hai comprato questi? Eh? Avevo ordinato quelli vegetariani, perché? Erano finiti. Ah, erano finiti? Sì, erano finiti. Beh, strano, perché ho detto al negoziante di mettermeli da parte. Dì la verità, tu non l'hai comprati per il prezzo, eh? Vuoi la verità? Sì. Sì, non l'ho presi per il prezzo, sai perché? Perché trovo immorale, trovo assurdo spendere 70 euro per dei cazzo di croccantini vegetariani! Oh, ma settimana scorsa 300 euro di veterinario, ma quel cane costa più di un cavallo da corsa! Ma lo sai quanti animali vengono macellati per fare quei croccantini, lo ma sai? Ma che cazzo me ne frega, Rita! Ma Cico è un cane e i cani da che mondo è mondo sono carnivori! Ma tu non puoi imporre mica le tue scelte vegetariane pure al cane! E che cazzo! Allora, mi stanno facendo una polemica assurda. Adesso poi abbandoniamo sto argomento perché non ne posso più, eh. Posso stare un'ora e un quarto tra altri interventi, per carità, quello che volete. Poi adesso cambiamo un po', no? Cambiamo direzione. Chi è che diceva cambiamo direzione? Uno slogan di qualche partito politico? No, viriamo. Ah, non mi no, no, cambiamo direzione. Comunque, vabbè, i socialisti. Qualcuno mi dice: no, per carità, i bambini non possono mangiare vegano, bisogna proibire questa cosa. Ma io sono contrario a questo. Se un, se un genitore, non è che esiste per fortuna. Ti rendi conto, cioè, non esiste il menù di messi Stato. Sotto processo. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Ma no, proprio perché ho in conseguenza. Davide, non esiste per fortuna il menù di Stato. Cioè, non esiste ma il menù di Stato. Menù allora, di Stato, se tu però... vuoi nutrire il tuo bambino, il tuo piccolo, il tuo neonato in un certo modo, in un certo modo, lo puoi nutrire in un certo modo. Se poi quel bambino lì, a causa della tua, come dire, delle tue fissazioni, va incontro a problemi, è ricoverato, cioè, e scoprono che sta male per colpa tua, allora ti facciamo un culo così, tu genitore vegano, quello che diavolo è. Ti facciamo, ma tu non puoi imporre il menù per cui non puoi dare. Nessuno impone il menù vegano ai bambini, perché ci sono genitori che sono convinti di voler nutrire un bambino in modo vegano. Va benissimo per me, se uno la pensa così, ma pazienza, va bene, siccome non è stato provato scientificamente. Perché ci sono dei, come dire, dei pediatri che seguono delle cose e sono convinti che dare del cibo vegano ai bambini faccia bene ai bambini. Va bene, fatelo pure, per carità. Però, ovviamente, non è che si può andare contro la legge, no? Questo è evidente. Però, una volta che scopro che tu hai fatto male al bambino, poi ti faccio un culo così. Ma proibire sin dall'inizio è sbagliato, è sbagliato. Franco da Ferrara, vai. Sì, buonasera. Dimmi. Volevo dire solo che per la cronaca... il signor Sgarbi che paga le tasse, pure io pago le tasse, e lui prende il vitalizio. Bisogna dirle ste robe. Sì, la voce simile a quella di Licio Gelli. Facci caso, perché è anziano così, dai. No, ma su, proprio signor Gelli, il tono, l'impostazione, il tono della voce, il timbro, ecco, scusami, il timbro. Allora, tu dici, Franco si incazza, adesso noi abbiamo fatto un'intervista a Sgarbone, era sul letto d'ospedale, non è che potevamo ricordare, scusa, no, adesso vitalizio, le cose, però effettivamente ha detto una cosa, due giorni prima in televisione cosa aveva detto Sgarbi? Io le tasse non le pago perché non voglio, cioè, ho fastidio a pagare tasse, mi rompe i coglioni pagare le tasse, in parte non le pago pure, perché è un diritto non pagare le tasse perché non voglio dare i soldi a Verdini, ad Alfano, a questi stronzi di parlamentari, la metà sono tutti dei coglioni, eccetera eccetera, e poi perché ci sono quelli che distruggono con le paleoliche il nostro ambiente, le nostre opere d'arte, eccetera. Però poi vai in un ospedale pubblico a farti salvare la vita dai medici, giusto Franco? Sì, giusto, giusto. E poi prende il vitalizio che è una sua. E poi fai il sindaco? No, il sindaco non lo fa più comunque. Fa l'assessore, no. Beh, ha fatto l'assessore. Ha fatto, sì. Ha fatto l'assessore. Cioè tu stai dicendo, se vuoi fare queste cose, cioè, però diciamo Franco, sì, è vero, però è Sgarbi. Cioè, tu capisci, quando uno dice Sgarbi, è Sgarbi. Assolve qualunque cosa. È Sgarbi, è come una specie di... Io sono di Ferrara, No, ma lo so, è come un passaporto, capito, no, Franco? È come un passaporto, sono Sgarbi. Sgarbi, lo conosciamo. E allora, Dario Lodi, vai, Dario. Sì, ciao. Dimmi. Senti, io sono velocissimo. Allora, praticamente, quando c'avevo 23-24 anni, una ragazza mi ha iniziato insomma a chiedere se volevo provare delle cose un po' diverse. Ecco, insomma, mi ha fatto provare un orgasmo prostatico. No, aspetta, andiamo con ordine. Siamo passati purtroppo dagli animali a Dario da Lodi. Dario, allora, la tua ragazza ti ha fatto provare un orgasmo prostatico. Vabbè, che vuol dire? Spiegalo agli ignoranti come Parenzo, ecco, che non sanno che cos'è. Com'è. Non ho idea, sì, infatti. Non hai idea, siamo Parenzo. Allora, praticamente non. Cioè, io non sono mai stato con un trans, non ci andrò mai, perché non mi piacciono gli uomini. Mai dire mai. Non sono uomini. Ma tu l'hai provato, mi pare, a questo punto? No, non ho mai provato. Ma so che di cosa si tratta. So di cosa si tratta, le ho visti molto da vicino. Non sono uomini, spesso sono splendide, sono ormai splendide donne. Splendide donne, certo, hanno l'uccello, non c'è niente da fare. Sì, ma non sto dicendo che chi va con i trans è gay, infatti io voglio dire il contrario. Cioè, secondo me l'uomo oggi, che sta succedendo, che va con questi trans, perché è una cosa un po' al 50%, un po' perché vogliono provare questo orgasmo prostatico, un po' perché c'è un po' questa cosa qui della donna che negli ultimi tempi ha messo su un po' troppo la cresta e ha messo su la cresta, sì, ma che vuol dire? Prima, adesso non più. Prima, per un po' di tempo è successo questo, gli uomini poi sono andati in crisi, allora è iniziato a perdere un po', è un discorso un po' complicato. Comunque, è molto complicato, non hai le idee chiare, Dario, No, le idee chiare. No, però non sono gay. questi non sono gay, questi che ma io non ho capito, ma scusami Dario, ma tu perché hai chiamato? Spiegami, non ho capito ancora perché hai chiamato. Per dire che questa gente che va con i trans non sono gay. Ah, ok, va bene. Ciao, Sergio da Monza, dai Sergio. Buonasera. Dimmi. Sì. Solo una cosa velocissima, ho chiamato perché quando a un certo punto hai detto stasera non lo dici spesso, cioè lo dici spesso, che gli animali sono esseri inferiori rispetto all'uomo, allora va benissimo tutto, ognuno poi ha la sua idea, però... Ma non è che sono inferiori, ma mi sembra scontato, mi sembra a me veramente di parlare... Aspetta, allora faccio un esempio. Di dire delle cose assolutamente normali, normalissime, normalissime. Faccio un esempio. Com'è che l'uomo, per esempio, è l'unica specie che prova piacere nell'uccidere un suo simile? L'uomo è l'unica specie che uccide per piacere anche altri animali, mentre in realtà in natura tutto questo succede per fame o per ma paura. Guarda, ci sono un sacco di animali che uccidono anche per istinto animale senza bisogno di cibo, no? Ma non è vero, no, ma non per piacere, anche per puro istinto. Lo scorpione uccide anche per istinto, anche per puro istinto, dai, non diciamo cazzate, dai, su. Ma come no. E poi altre cose, cioè, sempre per tornare al discorso del veganismo piuttosto del vegetarianismo, io mi definisco un vegetariano non rompicoglioni. Nel senso che se posso non mangio carne, non mangio pesce, ma quando c'è non dico di no, come fa piacere. Però ci sono alcune realtà dimostrate scientificamente a cui uno, cioè, se ne deve fare una ragione. Cioè il fatto che tu hai un intestino lunghissimo da erbivoro è così. Il fatto che la carne, cioè, fermenta e non dovrebbe farlo all'interno del tuo intestino è così. Il fatto che tu non abbia canini per dilaniare la carne e quindi non sei carnivoro è così. Cioè ci sono alcuni concetti che secondo me va benissimo tutto, cioè non c'è nessun mammifero. Hai delle certezze, hai delle certezze che sono incredibili, cioè dai per scontate certe delle cose che non lo sono, cioè delle cose che non lo sono. Che non lo sono. L'intestino che si dilana, ma che vuol dire? Aspetta un attimo, fermo. Chi è questo? Fermo. E dai, rispondi, su. Rispondi. Allora, io però mi voglio segnare una per una le cose che dice questo ascoltatore da Monza. Una per una le voglio segnare. Sergio, allora, che cosa hai detto? Ripetimi le cose. Una, prima cosa. No, la prima cosa. Poi, guarda, ti assicuro che adesso non sull'istante, perché poi vado avanti, perché sennò facciamo un trattato, ma te le confuto una per una. Una per una. Dimmi, qual è la prima cosa che hai detto? Qual è? Non esistono carnivori che hanno intestini così lunghi e sproporzionati rispetto a quello dell'uomo. In altre parole, l'intestino è l'apparato digerente umano, dell'essere umano. Non è da carnivoro. Non è fatto per quello. Infatti la carne l'apparato digerente, ma però ragazzi, cercate di parlare italiano pure voi vegetariani, vegani che ci rompete i coglioni. No, ma io non lo sono, l'ho detto prima che non lo sono. Non sono vabbè, allora? No, ci sono. Cioè, non siamo fatti per mangiare la carne. No, non siamo fatti fisiologicamente perché la carne che cosa provoca? La carne cosa provoca? Per esempio, fermentando acidifica il sangue in maniera esagerata, cosa che fermentando acidifica il sangue. Per esempio. Vabbè, poi per esempio, tu non hai canini sviluppati come può essere quello di un cane o di una tigre, cioè gente che non ha i canini animali sviluppati, che vuol dire? Spiegamelo, mettimelo concretamente, allora, che vuol dire sul discorso animalisti, vegani, cioè allora, che cazzo vuol dire? Allora, tu hai canini che sporgono come un cane? No. Ok, perfetto, il cane allora? Ha i canini sviluppati perché sono fatti per dilaniare la carne. Ah, non avendo i canini come loro, secondo te non siamo fatti per mangiare la carne? Non è che lo dico io, ma non lo dici tu, lo dici tu. Non è che lo dico io, non è una verità scientifica provata questa roba qua. Abbiamo i canini diversi, ma non è detto che i miei non possano mangiare la carne o non siano adatti a mangiare la carne. Ho capito, ma sì, ok, verificatele da solo, così. Faccio un altro esempio, siamo l'unica specie, per esempio, che dopo lo svezzamento non solo continua a bere latte, ma neanche della propria specie. E non esiste nessun altro mammifero che lo fa. Per cui sono forzature. Poi che sia buono, sono io il primo. Formaggio mi piace tantissimo. Ma cioè, sono tutte. Qual è la terza cosa? Scusa, rivedimi un po' quella sul latte che me la segno bene? che non esiste nessun altro mammifero oltre all'uomo che dopo lo svezzamento si nutre di latte e soprattutto di un'altra specie. Ma chi se ne frega? Ma io bevo sempre il latte la mattina col caffè. Ma dove non siamo fatti, secondo lui non siamo fatti per mangiare il latte, ma ragazzi, ma io no, è l'evoluzione che ti porta non a essere faccio, così. Non ce la faccio. Ma allora io come mai tutte le mattine mi faccio una tazza di latte col ma caffè? Ma non ho detto che non si può fare. No, lui non si può fare, però noi non siamo predisposti per questo. Ma non siamo predisposti, ma chi te lo dice? Io non ci zuppo dentro il pane con l'ottimo con la marmellata del caffè caldo. Allora, io sono un grande stimatore di carne, ci mancherebbe altro, ha un gusto fantastico. Non stiamo discutendo di quello. Io sto soltanto discutendo del fatto che esistono trattati sull'evoluzione piuttosto che trattati scientifici che ti dimostrano questa cosa, ma che va benissimo, che poi tu lo tolleri perché hai migliaia d'anni che lo facciamo. Non vuol dire che sia la cosa giusta. Tutto qua, questo stavo dicendo. Mauro, provincia di Milano. Ciao. Mauro, provincia di Milano. Sì, ciao ragazzi. Io ho l'opportunità di consultare parecchi giovani e torno bomba con questi ragazzi con un tema, il coniglio, la polemica giusto appunto che avete sollevato e chiedo voi cosa ne pensate e una signorina mi dice guarda io, tra l'altro una signorina molto intelligente, brillante, una ragazza molto simpatica, mi racconta della sua esperienza, mi dice io quando ero piccolina sono stata tantissime volte al mio nonno giù in Abruzzo, il quale allevando parecchi conigli spesso si è dedicato qualche volta insomma a preparare insomma il coniglio per essere cucinato e più volte mi ha invitata ad aiutarlo e professore guardi che non mi è successo assolutamente nulla nel vedere mio nonno che aveva preparato una sorta di ghigliottina per decapitare i conigli e eseguire un lavoro pulito senza far soffrire l'animale e io sono risultata, mi pare, e do conferma, un'ottima ragazza e una persona. Non ho capito, una tua alunna con il nonno, che cosa faceva? Mamma mia. No, è semplicissimo. Io raccontavo della mia esperienza da bambino dicendo che dagli zii vedevo il mio zio, ahimè, sopprimere la povera bestia destinata all'alimentazione umana con un colpo a mo' di karate alla nuca. E dico, signori, la cosa non mi ha mai impressionato, ho sempre pensato. Dovesse essere questa la condizione. Ma stai rispondendo al telefono? Che devi fare? Devi rispondere al telefono? No, purtroppo sto guidando, quindi non posso. Vabbè, ma non credo. Hai raccontato questa cosa per quale motivo? Spiegami. No, per dire che si cresce anche serenamente. È una polemica assolutamente sterile, assolutamente insignificante, quella di ridurre il coniglio a una, come dire, a un animale intoccabile. Anzi, se mi è concesso, posso raccontarti rapidissimamente una cosa, Giuseppe. Una volta ero con l'Ordine di Malta nelle Marche, in compagnia di due nobildonne, una era una Romanov e l'altra una principessa. In tempi antecomunismo, la principessa mi raccontò che durante... Un po' lunga però, si fa un po' lunga la storia. No, è una storia complessa. Si fa un po' lunga, si fa un po' lunga, amico mio. Si fa un po' lunga. Buon appetito, ciao. Ciao. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Ma ragazzi, ma che è successo? Ma già il traffico è quello che è, cade pure la linea. Capito. Una cosa incredibile. Dai, il traffico improvvisamente. Già ne possiamo discutere. No, però secondo me è utilissimo invece. Già ne possiamo discutere. Perché uno ascolta la radio. Ma se stai sempre, tu non guidi mai, stai sempre a Roma, è utilissimo a chi? Già a te non è utile, sicuro. A te no, non è io utile. Guido, io ultimamente guido molto. Dai, però, siccome il 90% degli utenti ascolta questa trasmissione in macchina, vedi tassisti, vedi NCC, vedi amanti che vanno dagli amichetti. Però non abbiamo approfondito, non abbiamo il tema del prostatico, come si chiama, dell'orgasmo prostatico. Sapevo. Sì. Richiamatemi il tizio, dai. Nicola da Cremona intanto, Nicola, vai. Nicola da Bar. Mi fai dare il numero, cazzo, dai, Nicola. Nicola, dai, dimmi. Eccomi. No, due cose velocissime. La prima è che non potete però stupirvi se per caso vi chiama uno e poi vi manda registrazione lo sciacquone e la piscia, la minzione per chiamarla in maniera tecnica. Cioè, di cosa vi stupite? Cioè, lo sciacquone di parente vi dice: ma ti rendi conto di questo che fa? Ma vi rendi conto? Ma dove siamo arrivati? Non l'ho capito, ma sarà in tono con quello che è un po' il leitmotiv della trasmissione, no? Io non è che vengo qua, scusami Nicola, non è che io vengo qua e piscio, scusami, ecco, appunto, e tiro lo sciacquone. Cioè, cerchiamo di parlare, no, di cose di cui ci va di parlare. Ma dove siamo arrivati? Per cui, no, però siamo d'accordo, ragazzi, che siete chiama... in grado di dare, no, voce, avete dato spesso voce a veramente dei personaggi straordinari, per il grande sollazzo del pubblico e vostro che gestisce della trasmissione. Vi invidio per questo, ma non lo stupore. Non lo stupore, ragazzi, vi prego, non lo stupore. Non, ma no, ma stupore, vabbè, addirittura senza nemmeno parlare, uno di solito dice: ragazzi, vi faccio sentire una cosa, esatto, piscia, e poi pure lo sciacquore, come faceva Parenzo. No? Andava, ma apprezzate la fantasia al limite, a questo punto, la creatività di questo che non vi chiede neanche il permesso e vi manda registrazione lo sciacquore, sempre che voi non lo sapevate prima, sempre ammettendo che non lo sapete prima. In che senso lo sapevamo prima? Ma che sai prima? Come faccio, no, a non lo so, a me mi hanno fatto un esamino prima di intervenire, Cioè, mi hanno detto esattamente che cosa volevo dire, di cosa volevo parlare. L'hai superato brillantemente, mi pare. Ma quale esamino, Nicola? Ti dicono due cose, ci sono mille persone che chiamano con la frega. Appunto, ma lasciami pensare almeno che è il tipo che però ha mandato poi in trasmissione on air la registrazione della pisciata delle cose. Cioè, è difficile far pensare che non lo potevate sapere. Ma come faccio a saperlo? Scusa, uno scrive, quello che fa. Tu puoi anche dire, scusami, mi è stato chiesto referenze, nome, chi sono. Ma tu puoi anche dire: voglio mandare a quel paese Cruciani, e quelli dicono: ah, come ti chiami? Giovanni da Bubù. Esatto. Ma quel paese Cruciani. Poi magari invece fai un'altra cosa, cioè mandi a quel paese Parenzo. Come fa uno a sapere? Giusto. Ma no, giusto, ma è la logica. Sciocchino dello sciocchino. L'altra cosa, volevo dirti un'altra cosa: la vita è fatta anche di sfumature. A fronte di questioni che riguardano gli orgasmi e questioni di orgasmi anali, quant'altro, o appunto scelte omosessuali, scelte di genere, cose varie, la vita è fatta di nuance, di sfumature. Non è bianco nero. Non puoi pensare che perché uno pensi che possa avere piacere alla stimolazione anale, a quel punto possa sicuramente avere un'omosessualità latente. Non vorrei, come dire, darti una grande delusione. Questo non è il mio interrogativo quotidiano. Cioè, quando non è che io ogni giorno mi interrogo su questo fatto che hai enunciato poco fa. Mi interrogo. Se uno vuole farsi stimolare dovunque, io non mi oppongo, non me ne frega nulla, francamente. Ecco, questo voglio dire. No, siccome si è parlato di questo, ho sentito anche questo. Sì, ma non è un tema che mi ossessiona ogni giorno. No, sapere ma non come uno un tema si stimola, che ti ossessiona, volevo però poter avere la presunzione di darti magari un input per dire forse la vita, anche da questo punto di vista, in un argomento quale la vita sessuale degli individui, i gusti, in questo senso, fa in modo tale che io non possa essere categorico, per cui separare coloro che hanno un determinato tipo di gusti io sessuali. Ho detto io ho detto semplicemente, ecco, lo ripeto, che se uno va coi trans, secondo me ha una tendenza omosessuale, dopodiché faccia quello che vuole, per me non mi interessa. Va bene, Nicola, ciao. Ho voglia di sentire una persona che forse domani, forse lunedì, forse martedì farà il suo ingresso qui alla Zanzara, caro Parenzo. Ah, sì? Farà il suo ingresso trionfale qui alla Zanzara. È un personaggio che abbiamo cominciato a conoscere. Aldo Cazzullo? No, Aldo Cazzullo, no. Scalfari, potremmo intervistare Eugenio Scalfari una sera? No, una direi proprio di no, direi di no. Direi di no. Scalfari non ti interessa. No. Dai, prova a indovinare, dai. No, non saprei veramente. Cioè, potrebbe essere anche Achille Bonitoliva, qualche intellettuale, non lo so. Umberto Eco non lo dico neanche perché so che ti provoca irritazione. Qualche grande scrittore, ecco, Scurati ad esempio. Io vorrei intervistare Scurati. Sicuro, sicuro. Qualche intellettuale, bello inserire frammento costui, di intellettuali. Costui si chiama Gianfranco Semproni, mitologico. Gianfranco Semproni. Grande protagonista delle televisioni locali abruzzesi, grande politologo italiano, io direi. Grande pensatore italiano, sentilo sui politici. Però ricordatevi, siete solo dei grandissimi sozzoni, perché vorrei capire, un uomo, un deputato, domanda, faccio una domanda a te che sei giovane, io ce l'ho nel cuore, giovane. Ma 8.000 euro, 9.000 euro al mese, 10.000 euro al mese, da voi stesse per campare, per farlo deputare. Hai capito la traduzione? È il lumese che è interessante anche. Il lumese. Ma 9.000 euro che lumese. Che c'ho nel cuore. Al mese. Ma è un parente di Savino non da Bari. Non ti bastano, Bari, non ti bastano per campare. Che serve accumulare tutto questo vile denaro? Se la vita eterna non ve la potete comprare. Mi dicono che il signor Veronesi, vecchio, decrepito, sarà pure una persona intelligente che conosce i sacci, ma hanno detto certe persone che non potevano raggiungere per una periodo 500 euro una visita, 500. Un altro signore da Milano 200 euro, ta-ta. Ma che tutti questi soldi, domani, che cazzo ci facete? Beh, siamo alla grande filosofia, amico mio. Senti questa, senti la conclusione. Cioè, il pensiero che c'è sotto è questo. Alla fine, che cazzo serve guadagnare tanti soldi? A cosa serve? Che ci fate solo con tanti perché soldi? Non li guadagna lui, senti, però, scusa. A cosa serve accumulare tutto questo denaro? Ci hanno oltre i 70 anni, non buone magna, non si può fare una scopata e guadagna fino tutti questi soldi. Comunque, fate quello che vi pare. Numero uno assoluto, assoluto. Vi regalo un'altra perla delle, come dire, delle uscite semproniane. Delle uscite semproniane. A un certo punto, durante una delle sue trasmissioni su questa televisione locale abruzzese, a Pescara, cosa dice il signor Semproni? Interviene una che gli dice: ma scusi, lei non era poi così bello, perché lui racconta di essere stato un gigolò, di avere fatto anche nella sua vita il gigolò. Beh, questa è una cosa che voglio chiedergli assolutamente quando verrà qui, quando farà l'ingresso trionfale. Parenzo, tu ti stupirai, no? Ma quale ingresso trionfale? Ingresso, ma che roba è? Ingresso trionfale. Ma mica è Stefano Folli, scusa, ma che ingresso trionfale a Semproni? Cazzo, ci frega di Folli, dai. Come? Ma che scherzi? Luisa da Monte Silvano ha scritto: caro Gianfranco, tu hai detto che quando eri giovane eri un gigolò. Ma i gigolò non sono uomini alti, belli, affascinanti? Cioè, praticamente non. Se non ero bello, non ci crede. Che cazzo posso fare? Cioè, la traduzione è: se non ero bello, ma che ci posso fare? Aspetta, aspetta. Che ci può essere anche basso, ma che una varra tanto. Perché c'è sempre il detto, nella botte piccola. Nella... Perché tu devi sapere che l'uomo alto, guarda com'è, guarda, guarda il dito. Sì, sì. L'uomo basso, guarda che roba. Hai capito che fa la L? Prova a fare la L col pollice. Com'è la L? Capito, la L col pollice. Sì, l'ho fatto. La L col pollice. Cioè l'indice alto. Esatto, no, tu fai no, l'indice. Cioè, risentiamo questa cosa di Semproni. Devi fare l'indice come la pistola, devi fare. Come dai. La pistola, esatto, bravo. Su, fate come no. La pistola. Cioè, questa è la filosofia semproniana, no? Cioè, l'uomo basso. Beh, questo un po' dovresti essere contento di questo. Rimandatemi un po'. Dici avvantaggiarmi. Sì, sì, rimandate un po'. Secondo me. Ci può essere anche basso, ma che una varra tanto. Perché c'è sempre il detto nella botte piccola. Perché tu devi sapere che l'uomo alto, guarda com'è, guarda, guarda il dito. Sì, l'uomo sì. Basso, guarda che roba. Questa una molto bella, dice all'amico: sai, io, tu lo sai che io avevo sempre il vizio di andare con le donne, e quindi tutte le volte pagavo, quando me ne andavo mettevo sopra il comodino, capite, la 50 e andavo via. Tu pensati, pazzesco, anche questo vizio lo faccio con mia moglie, tutte le volte che facciamo l'amore gli lascio 50 euro, 50 euro sopra il comodino. E dove sta lo dramma? Lo dramma, sì, qual è? Che mia moglie mi dà sempre un orecchio di 20 euro. È un filosofo. Beh, numero uno, è un filosofo della contemporaneità. Lutto. E concludiamo così. Qualcuno ha scritto: maleducato, cacciatelo, si soffia il naso in diretta. Non lo so, uno forse resiste, poi dopo la prima pubblicità. Ma se ti colo il naso, che cazzo resisti? Quando c'hai le coliche riesci a resistere a chiudere il buco del culo? Dai! Ti cacchi vabbè. Sotto, non ce la fai neanche ad arrivare al bagno, già ti caccate sotto. Ho capito. Scusami però se ti chiedo, ma esattamente questo signor Semproni di cosa si occupa esattamente? No, poi va benissimo qualunque cosa, ma di cosa si occupa esattamente? Cioè è competente in che cosa, sì, Semproni? Vorrei risentire questa cosa. Sì, ma di che cosa si occupa nella vita? Ma stai scherzando? No, vabbè, chiedo, ma scusami. Ma stai scherzando? Non lo so, se uno dice... Ma era se... un mio regalo agli ascoltatori per un motivo molto semplice. D'accordo. Ho sentito Semproni l'altro giorno, numero uno assoluto, contentissimo di venire qui, scatenato. Beh, su mille fronti. Alta persona o che domani, senti o lunedì. Ma di che cosa si occupa però lui nella vita quotidiana? un comunicatore, fai... Un comunicatore che cosa fa praticamente? Non so, credo giornalista, non lo so, cioè, un non, giornalista? Sì, credo di sì. Ho capito. Sì, ma non è che esiste solo gente come te, però, no, il mondo è vario, eh. Cioè, non è che esiste solo lo snobismo con le tue cene, no, con i tuoi capodanni che passerai insieme al signor Benincaso, altre persone ancora altolocate, darò subito indirizzo tutto per gli islamici. Grande capodanno a casa Benincasa, in cui posso annunciarti che Benincasa sta chiamando una cuoca, ad esempio. Penso, tu, ecco, se puoi, questo cari amici, posso, la gente di sinistra, che passa il capodanno e chiama i cuochi, i cuochi, ma cucinatevi da soli, gente di sinistra, voi che siete di sinistra. Una cuoca bravissima che farà, affittate una cuoca, divento pazzo, ragazzi, affittate le persone, scatenatevi contro Parenzo, mi sono rotti i coglioni, le persone, gente di sinistra, affitta un cuoco, casa chiama Giovanni Benincasa. Vuoi fare passare un capodanno felice a questa cuoca invece di sfruttarla per il capodanno? Lo so, in casa sarà sotto pagato in nero, molto probabilmente in nero, in nero, guardia di finanza, guardia di finanza, eccetera eccetera, andate a controllare se la cuoca pagata dagli amici. Ciao, di Parenzo, Giuliano, sono in diretta però alla radio. Ma chi è Giuliano, chi, scusa, è Giuliano, non so se posso dire il cognome. Ma chi è? Pisapia? Ferrara? Chi è? No, è Giuliano Tavaroli. Giuliano mio amico, Tavaroli, quello dello scandalo manager. Telecom. Ma quale scandalo? Ma che gente frequenti? No, scherzo. Una persona molto... conosco benissimo. Giuliano è una persona molto per bene, un grande esperto di sicurezza che mi stava chiamando. Vabbè, adesso parlate e fatevi i cazzi vostri. No, ciao. Adesso vabbè, chiudo. Ragazzi, veramente siamo messi male. Siamo alla frutta. State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Amici miei, siamo al flop. Prendendo in prestito le parole di una canzone di De André, mi tocca dire che Parenzo è, in quanto nano, indubbiamente una carogna, perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Meglio Nanno di Galera che Parenzo Penasera. Parenzo, vai a cagare, perché non ricordi Kossuth quando ha dato la mano a Milosevic, quando c'era la guerra, eh? Meglio Nanno di Galera che Parenzo Penasera. Purtroppo mandi a fanculo Parenzo da parte mia. Grazie. Cosa ti ama la gente però, ti vuole, ti vuole bene la gente. Un'operazione editoriale in cui hai messo quei poveri quattro scalzacani, un killeraggio, killeraggio. Un dossieraggio, e ho messo insieme quei quattro poveri scalzacani miserabili. La maggior parte di queste persone che abbiamo sentito vanno prostitute, pagano, sfruttano della gente. Ma non è vero, perché stai insultando? No, gentaglia, miserabili, poveretti, persone senza una vita, senza un affetto, senza un amore, senza una casa, qualcuno di loro addirittura. E l'unico ristoro che hanno è quando salgono nella loro umile macchina con gli ultimi, come dire, gli ultimi bitoli, gli ultimi cosi di benzina, gli ultimi, no, quasi il serbatoio, gli quasi vagiti spento, di denaro, gli ultimi vagiti di denaro, girano la radio. Io sentono e hanno questi ultimi sent sul telefonino, riescono a fare l'ultima chiamata della loro vita e, anelando l'ultimo respiro, dicono questo: ma sono gente miserabile, gente già condannata dalla storia, gente già distrutta, morta, sepolta, finita. Elena Milano, Elena, senza nessun livore, senza nessun rancore, ovviamente. No, beh, certo, ho detto senza rancore, assoluta pacatezza, tranquillità che mi contraddistingue. Elena, buonasera Parenzo, buonasera Crociani. Buonasera cara, senti la differenza di voce della borghesia illuminata che ma chiama. Ma che ne sai, questa chiama da Milano, magari chiama da Quarto Giaro, chiama da... No, si capisce già la borghesia illuminata. Vabbè, la borghesia illuminata, vabbè, ecco, la borghesia si sente illuminata. Subito, come si chiama questa signora? Elena da Milano. Oh, Milano. No, signora, no, ragazza. Questa ragazza. Quanti anni hai, Elena? 22, siamo veramente al top. Colta, vedi, ottimo. Parenzo, tu sei mai stato insieme ad una persona con oltre 20 anni più di te? Scusami, con 20 anni più di me? No, a me. Meno, scusami, meno. Mai, vent'anni meno no, eh? No. Certo. O coetanee o un po' più vecchie o più giovani, come nel caso di Natalia, che di 9 anni. Ho 9 anni più giovane, ma no, però. Mi pare, dunque io ne ho 39, sì. 40, sì, 14 anni, di febbraio, anni. Lei ne ha appena fatti 31, quindi sì, sì. No. Cara Elena, dici? Volevo intervenire perché niente, io sono una studentessa di veterinaria e, sì, ottimo. E sono vegana. Bene. E la mia vita è difficilissima perché diciamo che le aspettative erano decisamente altre quando ho iniziato i miei studi. In che senso? Nel senso che vabbè, il sogno fin da piccola è quello di curare e salvare tutti gli animali e poi in realtà ti rendi conto che vai a studiare per curare animali per poi ucciderli, quindi diciamo che rispetto a quello che era il mio grande sogno, insomma, è tutta un'altra cosa. No, non, non ho capito bene, scusami Elena. Il tuo sogno era quello di salvarli tutti, ovviamente. Non si possono salvare tutti gli animali. Il sogno fin da piccola. Beh, ma nell'innocenza di una bambina, ovviamente, c'è questo grande sogno. Vabbè. Che però se rimane, insomma, e invece? È un grande progetto. E invece no, in realtà le cose sono un po' diverse. Niente, io volevo riportare la mia testimonianza, nel senso che io sono stata in tutti quelli di cui ci sta parlando, allevamenti intensivi di maiali, mucche, allora? E quanto più, effettivamente per quanto possano rispettare tutte le norme sanitarie del Ministero, europee, sono comunque, tengono veramente poco conto del benessere animale, ma veramente poco, anche se comunque se infatti, ne parla. Infatti gli animali lì vengono messi insieme, allevati per essere poi ammazzati. Sì, ma no, no, beh, certo, però beh, vengono certo. Allevati in modo certo, ci sono delle regole, esempio, per allevarli, eh? Sì, ma le regole fanno schifo, è questo. Le ma regole, capito, fanno se voi volete cambiarle per far sopravvivere gli animali è un altro discorso, ma quello no, è una battaglia legittima. Ma uno stupirsi che negli allevamenti di animali si trattino male gli animali mi sembra veramente paradossale. Cioè, no, è evidente, amica mia, è evidente che se gli animali servono anche, tu puoi fare un'altra battaglia, e io è legittimo che tu la faccia. Se gli animali servono anche per mangiare, perché all'uomo per mangiare, come è nel mondo occidentale, no? Per forza che poi esistono gli allevamenti di un certo tipo, per forza che vengono allevati per essere poi uccisi, o no? Certo, però io ricordo ad esempio l'intervista di un allevatore di conigli, perché poi ovviamente tutto è partito, sì, dal coniglio. Sì. L'allevatore di conigli che diceva no, io i miei conigli li tengo bene, aveva tipo 20.000 capi, una roba del, sì, genere. Sì, quello da noi, sì. Allora? Insomma, non è vero, vengono tenuti non è vero, sì, ma secondo te, ma secondo te vengono tenuti male, secondo la legge vengono tenuti bene, tu vorresti una legge che li tenesse ancora più bene, benissimo, battiti per questo, ma non è pensare. È impossibile, perché ormai sta diventando un'industria e parlare di benessere è una cosa che non c'entra niente, no, con ma benessere, però quando parlo di, quando io sento parlare di benessere animale metto mano alla pistola, cioè non ce la posso fare, amica mia. No, bisogna, insomma, io ho imparato a conoscere gli animali sotto tanti aspetti diversi e vabbè, non è che voglio tirare fuori la solita frattata, gli animali soffrono, non è che voglio tirare fuori, gli animali soffrono, non ce la faccio, è vero, ma lo fa, è la solita stronzata, però davvero, sì, non è vabbè, una soffrono, d'accordo, soffriranno, non è una cazzata, soffrono, è vero, io lo ammetto, possono soffrire, e allora? Parlare di benessere, è lecito parlare di benessere, vabbè Elena, non ce la faccio, ciao. Un nome in testa di un signore che ho visto sul web e voglio sentire la sua voce. Si chiama Baldo Vaccaro. Sai chi è il signor Baldo Vaccaro? No, non ho idea, perché stavo guardando un'altra notizia che ti do in anteprima. Qual è? Cioè, tu conosci, in anteprima, insomma, conosci il Michael Moore, tu, no? Sì, quello Michael che Moore, fece, certo, i, sì, i, sì, film, sì, sull'11 settembre. Oggi è andato, giustamente, secondo me, davanti alla Trump Tower del signor Donald Trump. Ma che fare, rompere i coglioni a Trump. Fare un piccolo sit-in con un grande cartello sul quale c'è scritto We are all Muslim, cioè noi siamo tutti musulmani. È un personaggio già finito, morto. Straordinario, finito. Però ha fatto personaggio bene, finito. Me. Ma insomma, Trump è l'unica grande novità. Non piace solo ai perbenisti. Un grande imbarazzo. Ma che perbenisti? Che hai imbarazzo anche i repubblicani. Non piace solo ai perbenisti. Che hai imbarazzo anche i tuoi amici repubblicani. Altro che. È l'unica vera novità. L'unica cosa vera. Miliardario centrico con i capelli tinti che s'annoia, e siccome s'annoia e si è rotto i coglioni, si mette a fare politica. Certo. Ridicolo. Allora, patetico. Baldo Vaccaro, scuola libera e indipendente sulle scienze nutrizionali e comportamentali. Vabbè. Idee pazzesche, Vaccaro. Hey! Ma caro? Sì. Buonasera, sono Cruciani, come sta? Buonasera. Ecco, ma lei cosa mangia durante il giorno? Ci può spiegare un attimo? Qual è la sua dieta? La sua dieta miracolosa? Diciamo che io quello che promulgo, sì, a tutti i livelli, nei miei libri, nelle tesine che, sì, faccio nel mio blog, sì, è essenzialmente un sistema vegan crudista tendenziale. Vegan crudista tendenziale, non, cioè, non ho capito niente. Non rigoroso, cioè non è. Ma rigoroso sì, ma. Cioè, diciamo, lei il pesce lo mangia o no? Il tendenziale si riferisce soprattutto al crudismo. Quindi rigoroso nel senso che non c'è carne. Ma tu come giudichi, Baldo, come giudichi, diamoci del tu, come giudichi quelli che mangiano la carne? Ignoranti. Diciamo che sono un po' immaturi, direi. Immaturi. Anche a livello di coscienza, a livello di educazione civile, direi, no? Ma uno cresce peggio mangiando la carne, cioè si ammala più facilmente? Assolutamente, ma... non ci sono scuse, guarda, a nessun Senti, livello. Sconsiglieresti di fare i vaccini? Sono contrario a tutte le vaccinazioni. Sei contrario a tutte le vaccinazioni? In modo molto, molto marcato. Lo vieterebbe i vaccini? Se li vieterei, ma per forza, sì, come li vieterei, ma vedi, il discorso no, è questo. Scusi, come cioè io ho un bambino piccolo, sì, se lei mi vieta i vaccini, amico mio, me lo ammazza. Ammazzo il bambino? Sì. Ma da quando i quali? Ma è vero che provocano malattie terribili, l'autismo, queste per robe? Per forza che è vero questo, ma ci sono degli studiosi. Cioè cosa provocano un vaccino? Cosa provocano per esempio, l'autismo? L'autismo nei bambini, questo è dimostrato. Ma non è dimostrato, ma su, insomma, dai. Ma non è dimostrato, ma scusa. Ma anche la chemioterapia pensi la stessa cosa, Valdo? Assolutamente. Cioè tu non la faresti, se becchi il cancro, per carità, tocchiamoci. Dio non voglia, dai, su. Dio non voglia. Non si becca il cancro. Come non si becca il cancro? Non si becca, si rischia. Sì? Tutte le cose si costruiscono, smettiamolo di dire prendo questo o prendo. Ma in che senso si costruiscono, caro? Ma di chi parla, scusi? Parliamo linguaggi diversi. No, ma è curioso. No, ma in che senso non in esiste senso il cancro? Non esiste il cancro? No, chi ha detto che non esiste? Ho detto che non si becca, si costruisce. D'accordo, il cancro si costruisce. Perché è sbagliato fare la chemioterapia? È sbagliato fare le operazioni, intanto. È sbagliato fare la chemioterapia. È un atto di demolizione del proprio corpo. Sì. La nostra macchina è perfetta ed è autoguarente. Cioè si guarisce, si può guarire da soli. Si può guarire, ma per forza, le medicine non hanno mai guarito nessuno. Le medicine trasformano i sintomi in altri sintomi. Ho capito. Ma scusami un attimo, se uno allora ha una malattia grave come un cancro, eccetera, la prima cosa che deve fare è non prendere medicine e affidarsi, diciamo, a medicine naturali, a che cosa? Deve depurare il corpo, migliorare la formula del sangue, riattivare la funzionalità del fegato, sì, rinforzare il sistema immunitario con tantissima vitamina C naturale. Vitamina C naturale. Non capita a nessuno. Vitamina C naturale. Dai, senti, Baldo, tu come vedi l'omosessualità? Guarda, io... Onestamente. Sì, onestamente non è che mi attraga troppo, è un po' una situazione, una condizione che la vedo tuttora, sarò un po' inquadrato in questo, la vedo tuttora come non l'ideale, no, non è adesso sai, normalità, anormalità. Anche hai fatto una distinzione tra l'omosessualità maschile e femminile, perché? Cioè è più accettabile l'omosessualità femminile, cioè il lesbismo, piuttosto che due omosessuali, due gay? Il lesbismo lo vedo meno, come dire, meno grave in generale, cioè guarda, non meno grave, meno grave, sì, meno grave, okay. Grave, va bene. Non accetto molto proprio il discorso meccanicistico. Cioè che cosa? A te fa schifo, no. Fa schifo la sodomia, questa è la realtà. Bravo, mi fa schifo questo. Se vuoi mettere. No, ti fa schifo l'atto sessuale di due uomini che si inculano, questa è la sostanza. Bravissimo. Oh, ecco, come bravissimo. Bravissimo. No, io dico solo questo. Ma dice bravissimo, come dice bravissimo? Ma è una roba incredibile. No, mi piace molto questa espressione. Che ma le piace, ma qui siamo a livelli incredibili. Bravissimo, dice. No, ecco, bravissimo, perché ho bravissimo. Sono arrivato a sintetizzare. Bravissimo, non si dirà uno che ha inventato. No, bravissimo. Ma non no, per... ho sintetizzato, vabbè, capito? Ho sintetizzato. Ma che devo dire? Va bene. Ciao, grazie, Valdo. A presto. Ciao. Grazie a voi. Ciao, un saluto. Ciao. Allora ragazzi, dopo questa spolverata di Baldo Vaccaro, che dice che si può curare il cancro con la vitamina C, eccetera eccetera eccetera, tutto quello che avete ascoltato qualche secondo fa, vi dico che giustamente qualche prete che ha la testa, no, che non ha la testa malata, si chiede perché si fanno i funerali in chiesa Gelli e Casa Monica e invece si negano a Welby. E poi c'è il caso di quel paese che citavi in provincia di Brescia. In provincia di Brescia, che succede lì, caro Parenzo? Che, questi, che in questo comune, sai che mi sono messo in piedi a condurre, voglio dirti questo, che voglio provare la conduzione in piedi alla radio, chi se ne frega. Che in questo paesino, in questo piccolo comunello, sì, gli amministratori, o non so chi altro, se non gli amministratori del sindaco, hanno dichiarato che quello è un comune con le radici cattoliche, cristiane, sì, hanno messo cartello all'ingresso. Quando uno entra in questo paese, si trova questo simpatico cartello, questa indicazione che quel comune, di cui non voglio neanche citare il nome. Perché non vuoi citare il nome? È un comune che ha le radici. Ma uno può scrivere, ma che. Ma, cioè, ma abbiamo criticato, ho criticato Joe Cheesley, quel sindaco Joe che Cheesley, ha il nome di un formaggio francese, di quel formaggio lì, quel formaggiaio, sindaco di un comune, per quelle sue panzanate che scrive nel suo comune all'ingresso, no, Roma, eccetera. E ora criticheremo allo stesso modo anche Pontoglio. Pontoglio, lo dico io, dai, lo so che non lo vuoi sentire, non mi interessa Pontoglio. Niente, Pontoglio. Cosa vuol dire scrivere il sindaco radici cristiane? Cosa ha scritto, io spero che non abbia pagato, è una cazzata, devo dire la verità, è una cazzata pazzesca. Appunto, Pontoglio, dai, provincia di Brescia, paese a cultura occidentale di profonda tradizione cristiana. Chi non intende rispettare la cultura e le tradizioni locali è invitato ad andarsene. Ma cosa vuol dire? Ma non mettete le macchine in doppia fila? Ma cosa vuol dire? Uno che vive in un comune, cosa vuol dire? Che deve fare? La cosa è chiaramente un manifesto politico, questa roba qua. Spero che non sia stato pagato con i soldi nostri, anzi, sono quasi sicuro che sia stato pagato con i soldi nostri. Con quelli dei cittadini di quel comune, no, indirettamente sicuro. Anche con i nostri, sto dicendo. Beh, no, con chi paga le tasse comunali, non con i tuoi soldi. Comunque, soldi pubblici spesi per mettere questi cartelli inutili. Caro sindaco, totalmente inutili, totalmente inutili. Perché che cazzo vuol dire? Se vuoi fare un manifesto politico, fai una manifestazione, pagatela con i soldi tuoi, con i soldi della collettività. Non metti un cartello all'ingresso del comune che è assolutamente inutile. Perché non è che un marocchino che vuole venire lì ha paura di fronte a questo cartello. Oddio, cosa mi succede? Gabriella, Brescia, dai. Gabriella? Gabriella? Che ha fatto la signora Gabriella? E che ne sappiamo? Signora Gabriella? Signora Gabriella? Davide Torino, dai. Beh, chiudi tutto, dai, chiudi. Davide. No, ma che è Gabriella? Sono Davide, Davide di Torino, Gabriella non c'è. Dimmi, pronto? dimmi. Volevo solo dire che state facendo una cattiva informazione, secondo me. Perché senza carne... Noi facciamo sempre cattiva informazione. Madonna, poi c'è sto Parenzo che veramente... Senza carne, voglio dire, non si può... Non si può vivere, ma perché ci ste cazzate dei vegetariani? Almeno, questo è un parere mio. Senza carne purtroppo non si può vivere. Ma a me lo dici, non ho capito, perché come sfondi una porta aperta? O stai facendo ironia, o stai, vuoi fare delle battute? Non sto facendo ironia. No, pensavo che ti riferissi a un altro tipo di carne, per questo dico. Che carne? Carne umana, carne umana. Ma carne. Ovviamente no, che carne umana. Carne umana. Mica è Hannibal Lecter, questo qui. Ma carne che carne umana. Poi passate da un discorso all'altro che non fate capire un cazzo a chi vi ascolta. È la nostra specialità, è la nostra specialità. Madonna, passare. Madonna, mica un purpurì di cosa. Passare improvvisamente da una cosa all'altra, da un argomento all'altro. Se ti piace bene, se no, chi se ne frega. Comunque, domani dedicheremo la puntata alla consulta, al potere della Corte Costituzionale. E faremo dei profili dettagliati sui giudici. Oh, e uno mi ha scritto: forza Pontoglio, Giovanni indipendentista veneto. Ma amico mio, Giovanni indipendentista veneto, a che cazzo serve quel cartello? Tu puoi essere indipendentista contro gli islamici, va benissimo. A che cazzo serve quel cartello? Questo dovresti domandarti con i soldi tuoi, a riaffermare una tua cultura, una tua identità. Non serve il cartello all'ingresso dei comuni. Dai ragazzi, siamo seri. Pure io sono contro l'islam radicale, sono contro l'islam in generale, penso che l'islam sia un po' un pericolo. Dai, però, su. A domani, dai. Sono diventato uno zanzara dipendente. Siete peggio della droga. Andate a fanculo. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8. Lo dica a voce alta.